Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Pronto? Chi è? Sono Vittorio Feltri. Buonasera. Ho letto e sentito delle dichiarazioni sconcertanti. Se mi fa la gentilezza di chiamare con un numero conosciuto. Numero quale? Perché se il numero, io parlo... è il numero di Milano, è il numero della redazione di Milano. No, se non conoscete, numero, perché non fate un numero, cazzo lì un al sud, non ma ecco, ma che cosa fa? Non fate niente al sud e risponde con volgarità. Io ho chiesto solo di parlare e di rendermi conto. Ma come si permette? Ma come si permette? Ma come si vada a lavorare lei? Vada a lavorare. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Pronto? Pronto? Sì? Un attimo solo. Poveri ignoranti, poveri cretini. Avevate sete del latte droga quando vostra madre vi porgeva il seno, eh? Eravate ancora bambini, ora siete solo gregge. Gregge da discoteca, sintomatia del sintetico. Cosa? Gregge da discoteca, sintomatia del sintetico. Io non respiro perché sono donna. Io non respiro perché sono disabile. Io non respiro perché sono immigrata. Io non respiro perché sono ebrea. Io non respiro perché sono musulmana. Io non respiro perché sono gay. Barisoni gay. Non respiro perché sono lesbica. Non respiro perché ho la pelle nera. Black Lives Matter. Ramelli. Longoni. Questo razzismo, questo razzismo. Capezzone. Allora, nell'ordine, numero uno, secondo, terzo. Mi servono soldi senza mangiare, senza acqua. Andate a rubare. Ma anche questi, roba d'ammazzo. E si era giù da me quante pedate nel culo gli davano. No, ma gli rombo ora! Ma questo devo mandare a TG Travalta. Amico, saluta la Nina! Ovunque dobbiamo rispettare le regole. Voi le rispettate lì al campo della Magliana? No! No, no! Grande Max, grande Max. Ciao, ciao Rocco, ciao Rocco, ciao. Beh, amico mio, Monterosa 91, 20149. Non so fino a quando, pare che ci trasportino, pare che ci cambino sede, ci portino in un posto molto, molto lontano. Ma io resterò qui barricato, mi faccio fare uno studio personale qui in via Monterosa 91. Applausi, grazie. Il collegamento sempre da Padova. Casa come al solito, villino, con l'ascensore privato dentro, vabbè, roba da borghesi, benestanti, eccetera, che non è un crimine, che non è un crimine, per carità, non sento nulla, però comunque ci dovrebbe essere, ci dovrebbe certo. Essere il signor Palenzo, cioè, cari amici. Esiste, buonasera, esiste, sì, certo, esiste, che ci sono, buonasera cari amici, grazie, sono da sempre, ho ascoltato, grazie della gentile concessione, tutte le fregnacce che hai detto, sì, ma soprattutto benissimo. Risulti essere un costo in più per l'azienda, perché questa tua minaccia di rimanere Beh, dico, io non dentro ci vado di in periferia, quando in periferia. periferia col cazzo che ci vado, col cazzo che ci vado, te lo posso dire? Non mandare via delle persone, ma di riorganizzare con degli stabili che costino meno e quant'altro. Io tu, in periferia, come al solito, non ci vado. Tu, non come al solito, vado, pur avendo, chiaro? Dovresti andarci perché hai il contratto da inviato. Ed essendo non ci inviato, vado. Almeno vai io in periferia, in periferia col, almeno, che io ti dico, almeno, col cazzo che almeno, ci vado. Non almeno, ci vado in periferia, almeno, non ci vado, almeno, non ci vado. Ma sei comunque, veramente, ragazzi, uno snob? Perché non no, vai in, no, non ci vado lontano. Qui sto a Via Monterosa, sto benissimo. Il palazzo di Renzo Piano sto lontano. No, perché non abitando vado lì vicino. Certo, non c'è il motorino dubbio fa prima. Non c'è dubbio. Quindi lui, non siccome c'è dubbio, fa, i lavoratori che invece tutte le mattine devono prendersi la metropolitana, devono prendersi i mezzi pubblici per andare a lavorare, lui dice no, io rimango qua perché io sono un inviato. Un inviato, e rimango qua. Comunque, ragazzi, ci sono tante cose da dire oggi. Iniziamo da che cosa? Iniziamo non ci della serie Non ci posso credere. Poi uno dice che si incazza, ma io non mi voglio incazzare. Uno dice che si incazza, ma io non mi voglio incazzare. Hai capito che non mi voglio incazzare? Però sì, mi incazzo OMS, lo stesso. OMS, amico mio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia dà 15 milioni di dollari e anche 16 milioni, credo, di franchi svizzeri. No, dà una barca di soldi a questi signori che sono diventati degli opinionisti. Cioè dire, la parola di un signore dell'OMS vale come quella mia, quella tua, come quella del signor Lacorte, come quella di Ramelli. Noi non è siamo uguale, medici in alcun modo, sono dei ciarlatani, chiaro? Oggi un signore a nome dell'OMS che cosa ha detto? Ha detto che gli asintomatici, i famosi asintomatici, su cui ci hanno fatto due coglioni così per mesi, il grande gli asintomatici pericolo, positivi, il grande, gli asintomatici certamente positivi, negativi che cazzo vuol dire, certo positivi, gli asintomatici positivi, gli asintomatici che dunque non hanno nessun sintomo del virus, erano il grande pericolo, il grandissimo per lo spauracchio, perché contagiano questo signore dell'OMS a nome di questa organizzazione che andrebbe chiusa, sbarrata, no, beh, distrutta, chiusa, basta, via cose, innanzitutto noi dovremmo ritirare, anzi, il contributo che diamo, quei soldi diamoli ai poveri, diamoli a quelli veramente poveri, quelli che hanno bisogno, non a, a questi signori che fanno gli opinionisti ormai televisivi. I signori dell'OMS dicono che questi asintomatici, ma bisogna leggere lo studio, sostanzialmente, no, lo studio? Non mi interessa, hai letto, lo studio, hai letto il titolo dello studio? No, lascia perdere, la cosa è questa, dicono che poi in realtà non sono così contagiosi, avete rotto il cazzo. Ah, non vi crediamo, che non vi crediamo più, non vi, credi- cosa pazzesca, non vi crediamo più. Non crediamo, dovrebbe essere la Cassazione l'OMS. L'OMS dovrebbe essere la Cassazione finale. Uno parla all'OMS e dici cazzo, parla la Cassazione. Poi perché e anche poi hanno detto siamo stati fraintesi, li stiamo studiando. Non me ne frega un cazzo. Non devi, non l'OMS però non studia, emette sentenze. L'OMS non è una trasmissione radiofonica. È una trasmissione, è diventata una buffonata. Non ne possiamo più. Va, la parola dell'OMS vale come quella del signor Lacorte, vale come quella mia ormai, è uguale, no, la, sono la degli opinionisti, è ottimo, ma è non come è un confronto tra Capezzone e Vauro, con tutto il rispetto per Capezzone e con Vauro naturalmente. Lei, anzi, ha detto, la è la stessa cosa, detto, sono stata fraintesa, è non erano buffonata, considerazioni a livello globale ma basati, ma su piccoli cazzo, studi, ma chi realizzati, è qua? Chi paghiamo? Questa è la notizia, sentiamo vera, chi paghiamo, è raro che un asintomatico sia contagioso, sentiamo chi paghiamo, fior di milioni, quanto prende questa signora per dire cazzate, signore o signora, dice, sono, quanto no, signora, prende sono al mese? 20.000, 30.000, 40.000 dollari? Quanti soldi prende? Quanti soldi prende? Forse meno di te. Ma io sono forse autorizzato di a dire cazzate, sono non la Cassazione della medicina, cazzo. Non erano considerazioni non a livello globale, ma basate su piccoli studi realizzati. Ma chi se ne frega di queste puttanate? Ma perché? Ma che sei il difensore? Ma che sei l'avvocato dell'OMS? Ma tuo padre difende l'OMS? Tuo padre difende l'OMS? Per caso hai un conflitto magari di interessi con, ma magari, ma non starei qui a farla zazzara, tuo fratello difende l'OMS, ma non dovrei lavorare in quella palazzina così di Padova, se dai, fosse così su, non sarei qui non a lavorare parlare, ma sarei pancia non all'aria, mi fare parlare, ma magari non mi fate fosse parlare se, di quello se che fosse succede, così di non dovrei che ho visto lavorare a Padova, non mi fate parlare, dai, e invece devo lavorare, come vedi, so qua, se difendessi l'OMS non dovrei lavorare, dai, non mi fate parlare. It still appears to be rare that an asymptomatic individual actually transmits onward. Siete una vergogna, dimettetevi tutti, si deve dimettere questa signora, non deve essere più è un problema, io di persone, non voglio non dare di più un euro è un di a questa signora, non voglio dare più un euro dei miei quattrini a questa qua che è un dallo, opinionista, è un niente, opinionista, aboliamo, li do che a te, li salita, do a, sì certo, aboliamo, aboliamo. aboliamo. Allora, poi succede un'altra roba, ragazzi. Io non ne mettiamoci posso più. In generale questa... Pappalardo. Perché ma cioè, Pappalardo è uguale a questa qua, non è molto diverso. Non è a proposito di Pappalardo, si viene ad apprendere che poi vi leggerò un comunicato intero dei carabinieri su Pappalardo, che, ragazzi, è esilarante. Il sunto di questo comunicato dei carabinieri, dell'arma dei carabinieri, beh, certo, sul generale Pappalardo, è che il generale Pappalardo è diventato generale l'ultimo giorno. Tu non hai capito ancora. Ah. Il generale Pappalardo è diventato Meluzzi, generale. No, beh, Meluzzi si è autoconvocato. No, papà, questo è diverso. Pappalardo, sì, secondo una legge vecchia, è diventato generale dei carabinieri il giorno prima di andare di anzianità. No, il giorno prima di andare in congedo. Per una legge vecchia. Ma chi è che l'ha nominato? I carabinieri, perché funzionava così. Quindi è uno scatto di anzianità. Sì, appunto. Davide, per non anzianità. Entrare nel dettaglio, che non ce ne frega un cazzo. No, prima di andare in pensione, tutti per aumentare generali. La pensione, per aumentarti la pensione, penso, ti nominavano. Lui è stato generale un giorno. Ma qualcuno l'avrà decisa questa cosa. Ma sì, ma è tutto formale, regolare, ma è stato generale per un giorno, per andare in pensione. Questo spiega tutto. Meno male che l'hanno precisato. Però. Quindi non ha mai governato nulla, per fortuna. No, vabbè, cioè, non ha mai avuto nulla. È stato colonnello, che c'è? È stato colonnello. Sì, vabbè, colonnello. Ragazzi, la Boldrini si è inginocchiata oggi insieme ad altri deputati. Si è inginocchiata per il caso di Floyd, di George Floyd. Si è inginocchiata alla Camera con tutto quello che negli anni è successo in Italia. Io non dico tutto quello a tutti i livelli. Si è inginocchiata per un signore deceduto. In United States of America, beh, Minnesota, Stato di Minnesota, capito? Minnesota. Doveroso ricordare alla Camera, ma chi cazzo? Ma perché è doveroso? Chi lo dice? Chi lo sostiene che è doveroso? Bello che anche le istituzioni democratiche italiane siano vicine a che al cosa? Popolo afroamericano. A che cosa? Ma quella c'è un'indagine, vedremo. L'indagine lo condannassero, punto e basta. Il poliziotto verrà condannato, va benissimo. In tutto il mondo ci sono manifestazioni di sostegno agli afroamericani. Tutto il mondo. Quindi. Direi doveroso che in questo luogo, che è il cuore della democrazia italiana, venga ricordato George Floyd. George Floyd. Perché il razzismo è presente anche da noi, nel nostro paese, c'è? E perché i violenti abusi di potere sono accaduti e accadono anche da noi. Ma non è vero, è falso. Non è vero che certo ci sono stati gli abusi di potere, no? Ma non come negli Cucchi? Stati Uniti. Ma di che parla? Ma che c'entra? È il caso Cucchi? Ma è un altro. È il caso Cucchi? Ma perché mettete tutti insieme? Cucchi? Siete quelli delle Aldo fake Brandi? News. Siete è quelli delle fake Cucchi? News e mettete tutti è il caso insieme. Cucchi? Ma ti devi vergognare. Ti devi vergognare. E il caso Cucchi? Chi? Io non respiro perché sono donna. E che c'entra? Io non respiro perché sono disabile. Io non respiro perché sono immigrata. Io non respiro perché sono ebrea. Io non respiro perché sono musulmana. Io non respiro perché sono gay. Non respiro perché sono lesbica. Non respiro perché sono di tutte le minoranze. Ma perché le lesbiche sono discriminate in Italia? Perché le lesbiche sono discriminate in Italia, Monezzo. Le lesbiche sono discriminate vengono in Italia. Offese, le lesbiche sono discriminate in Italia. Offese, le lesbiche come gli omosessuali vengono offesi. Su. Vengono derisi, offesi ma in alcuni mai, casi. No? In questa trasmissione, magari, sì. Ciao, sono Leonardo da Piacenza e anch'io piscio nel lavandino. I love my radio. La Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, eh? Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. E ci mancava i rom che protestano, grazie al cazzo, dopo 2 mesi, tutti chiusi in casa, questi dove cazzo andavano a rubare? A nessuna parte, erano senza lavoro praticamente. Ma vaffanculo, va. Altra cosa, caro Parenzo, per cui vado ai matti. tutti. Vado ai malmanico, per carità, libertà di manifestazione per tutti, anche per i signori lesbiche, gay, come dice la Boldrini, non so chi, eccetera. Persino per i signori rom che hanno sfilato oggi davanti a dei commercianti di Firenze o dei passanti leggermente, come dire, colpiti da questa manifestazione rom. I signori rom, c'erano tutte quelle signore con la palandrana, non propriamente, mi sembra di capire, no, ma non c'è dubbio, non propriamente in una situazione di difficoltà, come dire, no, a mangiare, mi sembra, queste signore, ma mi sembrano signore anche belle in carne, per carità, poi uno può essere povero in carne, ce lo dice la storia, no? Ce lo dice la storia. Beh, però i bambini si... dell'Africa, ad esempio, hanno tutti la pancia molto gonfia. Adesso questo non c'entra. Eppure non c'entra, non solo, no, ma per dirti, non è che se uno ha la pancia gonfia, sì, però, vuol dire che ha mangiato tanto. La manifestazione dei signori rom a Firenze per avere quattrini causa crisi Covid. Non ti fa andare ai matti una cosa di questo tipo? I signori rom con tanto di palandrà, non ti fa andare ai matti una cosa di questo tipo? Eppure la gente, eppure la gente, senti, abbiamo già mandato all'inizio, ma risentiamo la manifestazione Roma a Firenze con alcune vocine in sottofondo di signori che vedevano questa manifestazione di signori Roma. Dai, la manifestazione di Roma non suscitano simpatia, su questo non ma c'è no, dubbio, ma per avere, guarda, quattrini, per chiedere quattrini, dire anche per grazie, chiedere quattrini, immagino che, quattrini, immagino che il tuo amico del Debbio faccia un approfondimento su questo, questa manifestazione, un approfondimento su questa manifestazione, l'apertura, una grande inchiesta. Mi servono soldi senza mangiare, servono soldi, servono soldi, da rubare, ma anche questi dopo li ammazzi. E si era giunto a me quante pedate nel culo gli davano. Eccoli, hai visto? Senza mangiare, saluta la Nina. Vai, vai, tranquille, andate tranquille, vai. Una roba incredibile, una roba vedo già tutto pronto per giovedì sera, immagino già la scena, sigla di Dritto e Rovescio, tu seduto in studio collegato Maurizio Belpietro, poi c'è un deputato di Fratelli d'Italia e la povera Fusani, in mezzo c'è Paolo Del Debbio che inizia la puntata così, allora via, ora pure i rom, pure i rom ora fa la manifestazione, vi fa vedere cosa hanno fatto, ma non parla, fa vedere così, il servizio, realtà, con tutti quelli che protestano perché lei è di Lucca, tutti quelli che protestano, poi ritorna in studio e dice allora, ma vi pare possibile, ma io non dico niente, ma io non dico niente, figuriamoci, ora ma vi pare possibile che sti rom si mettano, io non dico niente, io non dico niente, però vi pare possibile che sti rom facciano la manifestazione, ma vi pare comunque discutete voi, sentiamo Fratelli d'Italia o Cruciani che c'hai da ditte, e quest'altro che c'ha della verità, che dici Belpietro, e poi la Fusani, questo è il meccanismo, questa è la Sgarbi trasmissione contro, di giovedì contro già scritta, sul virus, te l'ho scritta, sul virus, scritta, già scritta, sul virus ti ho scritto, senti, la puntata, senti che scontro, senti che scontro. Vittorio, stai dicendo una cosa, non è vero che la malattia non c'è più, che il coronavirus non c'è più, c'è ancora, sta in fase calante, ma sta no, in fase calante, l'ha detto Zangrillo, l'ha detto Silvestri, la maggioranza degli italiani ha avuto il buon senso di evitare gli assembramenti, non c'è più, ma non è vero che non c'è più, è una cazzata, non dire queste cazzate, Vittorio, io ti voglio bene, mi fido di Zangrillo, fermi, mi fido di Silvestri, non mi fido di te, voglio sentire Puca, Puca, tu non puoi dire. Comunque, ragazzi, posso dire una cosa? Sgarbone ha ragione, e a questo punto vanno rivalutate fortemente le posizioni gottardiane e sgarbiane dell'inizio. Cioè dire, è vero che c'era la... Però, ragazzi, siamo di fronte a qualcosa... Nei ti confronti, anche cioè tu, Sgarbi, morti, no, ma che morti, c'entra i morti? Adesso non mettere in campo il i morti. Picco. Allora, no, Sgarbi, quello che è accaduto, nei confronti che è di questi signori dell'OMS, passa come un genio della scienza. Ma questo non questi c'entra niente, dell'OMS c'entra fatti, che si contraddicono, dovrebbe essere la Cassazione. Ha evitato che Sgarbi la strage è un continuasse, genio al confronto di questi signori, ma va bene, ma che prendono decine tema, di migliaia di dollari al giorno. Il lockdown, con tutta la dolorosità di questo strumento, ha evitato che ci fossero ancora più morti? Alcuni hanno fatto lockdown meno forti, meno rigidi dei nostri, hanno, ma avevano forse meno focolai di noi, avevano forse fermi una tutti, violenza da meno forte del c'è virus, c'è Paco da Belluno che vuole intervenire, non so meno che vuole signor male. Paco da Belluno, meno male, dimmi, dimmi Paco, dimmi. Sai, ciao Parenzo, dimmi, dimmi, ciao, fratello, un abbraccio, ciao. A Parenzo, un abbraccio a Parenzo, fai ancora il discorso Cruz, no? Dimmi, dimmi, tu non sei, io fratello stupido, sono a Padova, se voi ci vediamo uno di questi giorni, caro Paco, come no, voglio parlarti di una, voglio darti un abbraccio con la mascherina ti voglio offrire un caffè, fratello, e parlarti di un grande progetto, un'idea che ho per noi. Intanto voglio ringraziarti ancora per essere venuto in Italia, perché stai portando civiltà nel sindacato e nel dibattito politico. Ma cosa state parlando? Ma cosa sta parlando? Paco è uno che dà da me del razzista, del fascista e nazista. Salvini, tu sei un pezzo di merda, tu non sei, tu non sei stupido, tu sei uno stronzo. Ma che vuoi oggi? Che cosa vuoi? Che cosa ti vuoi inginocchiare anche tu per Floyd? Ti vuoi inginocchiare anche tu? E in ginocchio, avanti, in ginocchio. Fammi parlare. Io mi sono già messo in ginocchio, sono già in ginocchio. Sei in ginocchio. Dove vai? Sul posto di lavoro? Sul posto di lavoro ti metti in ginocchio? No, ma neanche per sogno. Sul posto di lavoro io lavoro, perché io vivo del lavoro. No, mettiti in ginocchio. La mia famiglia del lavoro. Sul posto di lavoro, mettiti in ginocchio. Mettiti in ginocchio sul posto di lavoro. Se io non ho un lavoro, la mia famiglia non mangia. Io il lavoro lo tratto al 200%. Vabbè, che vuoi allora? Che vuoi? Non sei altro. Ma che vuoi? Tu non hai capito una cosa, ascoltami qua. Tu non hai capito una cosa. Dimmi. Sai perché questa morte ha fatto tanto rumore? Sì, perché un poliziotto ha schiacciato la testa un signore. È stata fatta in diretta. Tu non hai capito un cazzo. Certo, grazie al cazzo. Sì, una cosa frecceriana, una cosa frecceriana. È vero che noi neri, noi che siamo in minoranza, noi siamo sempre stati trattati male. Cruciani, non siamo stati noi. Hai un posto di lavoro, hai una famiglia in Italia, spada di fuoco. Hai una famiglia in Italia. Hai pure un altro figlio da un'altra parte. Hai messo incinta un sacco di gente. Ultimamente lo prendono tutti, pezzo da merda, che non sei altro. Ultimamente lo prendono tutti. Cala Salvini, cali anche tu. Non hai più niente da dire. Quanta gente entra in questa cazzo programma e ti insultano. Tu non hai capito un cazzo. Una cosa che è successa, filmata in diretta a Facebook. E allora? Fa un altro effetto. Vabbè, non sappiamo che ci devi fare lezione di golf. Ucciso una persona in diretta. Ma che ci devi fare lezione, la lezione di comunicazione adesso, Paco da Belluno? Di troppo. Ma perché tu sei un pezzo di merda? Tu non sei, tu non sei stupido. Ma io mi devo inginocchiare per forza. Mi devo inginocchiare per forza. Mi devo inginocchiare per forza. È una morte drammatica. E decideranno i tribunali americani. Che cazzo volete da me? Quando sei in difficoltà non ascolti. Quando sei in difficoltà non ascolti, no? Quando sei in difficoltà, ma dimmi, ma dimmi. Allora è successo soltanto. Tanto che ha fatto tanto rumore perché è stata una cosa successa in diretta. Vabbè, ma lo sappiamo questo, allora? E questa cambia tutto, e questa anche è un morto in più, anche perché noi soffriamo, abbiamo sempre abbiamo ancora sempre questo vittimismo, ancora, basta questo vittimismo, non siamo stati noi a venire in Europa, la schiavitù, la colonizzazione, da dove arriva? La schiavitù, ma che c'entra? Ma cosa c'entra? Ma che fai? Ma che vuoi fare la rivoluzione? Che vuoi fare la rivoluzione nera in Italia? Che cosa vuoi fare adesso? La liberazione nera in Italia? Non si deve essere differente. Che vuoi fare la storia? Noi siamo umani come voi. Ma chi dice di noi siamo umani come i bianchi? Noi siamo umani come i bianchi. Ma chi dice di no? Ma chi dice di no? Ci sono anche dei delinquenti tra di noi, ma noi siamo uguali. Se mi tagli la pelle, se mi tagli la vena, hai cosa viene fuori? Il sangue come non ma abbiamo chi dice forse lo stesso ma sangue, chi dice il contrario? Ma chi dice il contrario? Gli organi sono dentro di me. Non sono gli stessi. A spada di fuoco. Ma che vuoi? Spada di fuoco. L'unica cosa che cambia è il colore della pelle. Il colore della pelle non deve essere un problema. È il tuo uccello. Non deve essere un problema. E voi fascisti di merda che tu sei. Ma tu sei fascista. Sei tu un fascista. Tu sei un fascista. Tu sei un fascista. Chiaro? Sei tu il fascista. Sei tu il fascista. Sei tu il figlio di Mussolini, deve essere pezzo di merda che non sei altro. Mussolini non posso essere. Figlio di Mussolini deve essere. Tu adori Mussolini, pezzo di merda che non sei altro. Non è da escludere. Mussolini è un criminale. Mussolini è un criminale fascista. Ma che vuoi da me? Ma tu sei tu fascista, sei tu fascista, sei tu fascista estremista che pensi di essere vittima di qualcosa di cui non sei vittima. Ma io non sono vittima di niente. Io allora che cazzo vuoi? Io non sono vittima di niente. E allora in ginocchio, fai questa sceneggiata anche tu, in ginocchio di per Floyd, dai, in ginocchio di per Floyd. Mettiti in ginocchio per Floyd, dai, buffone. Cruciani, in questo paese io lavoro come te. E chi dice il contrario? E chi dice il contrario? Ma che cazzo vuoi? Ma perché? Ma perché io mi devo inginocchiare per forza? Mi devo inginocchiare? Ma marchettaro sarai tu, marchettaro. Io vado in fabbrica a fare 8 ore di lavoro. Va bene, va benissimo. Sindacalista gratuitamente. Tu sei un pezzo di merda. Fermala, c'è rabbia. Il segnale orario vi è offerto da Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com. La Zanzara. Oh, grande Cruciani, anche tu mi hai aiutato a smettere di drogarmi. Sono pulito da 6 mesi quasi, non tocco cocaina e crack da 6 mesi. Sono veramente un'altra persona, ho salvato qualche dente. Vi ringrazio, grazie a tutti, ciao, ciao, arrivederci. Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie. Yeah! Sento le voci, sì, mi sento chiamare dalle mie fantasie, dal profondo del mare, dalla TV, dalle porcherie, dal silenzio dei sogni inconfessabili. Demone scimmia! Demone, perché ha chiamato oggi? Com'è la situazione lì in comunità? Ma solita merda! Un dottore chiamato un dottore. Cosa? Qui c'è un ragazzo che muore affogato nella palude. Quando? Del Nazional Popolare. Papi! Non vedo la lucetta rossa. Come mai? Vittorio Sgarbi, togliti quella sigaretta! Non posso metterti in onda con una sigaretta! Stai buono! Togliti quella sigaretta! Sono a casa mia! Eh? Sono a casa mia, che dici? Che fai, fumi? Sono a casa mia, non nel tuo studio di merda! Yes, I'm good in Italian. I tedeschi si mangiano bene in Italia. Mi devono capire che mangiano Würstel. Venite in Italia, cosa inutile. Io potevo essere stipendiata. Cosa dobbiamo dire? Che passare con un elicottero, prendere le 50 euro e buttarle, e così la gente li prende e può sopravvivere. Quello dovrebbero fare. Quindi con un bel elicottero, fondo se le chiede della pace, vincine the sold, ed è. Non da lavando un mare, perché poi se ne vanno a mare. Eh no, che poi okay. Bagni non so più. E poi non so più. Allora, se tutti quanti, perché ci sono 8.000 dipendenti fra comune, regione, 8.000 che stanno a crash, per non dire la data, stanno a crash in dall'ufficio e pigntrisa buona buona. Ok. Cosa? Dipendenti sì. Ce li hai? Sì, ce ne ho due. Cassa integrazione? Ma mo sto solo io sto. Ma dico loro stanno in casa. Loro dovrebbero prendere, che non hanno preso, ancora preso niente. La cassa, non pure. Hanno preso niente. Però l'Inps ha detto non vi preoccupate, adesso acceleriamo. L'Inps non capisce nulla. L'Inps non zap nulla. Hanno messo un piripicchio. Lei si rende conto di ciò che sta dicendo? Sì, si hanno messo un che non capisce nulla. Via! Da questo canale! Beh ragazzi, il clima è molto caldo, il clima è molto molto caldo, caro David, molto caldo in America soprattutto perché si è scoperto che l'uomo ha lanciato l'auto contro la folla a Seattle, la folla che manifestava per Floyd, è il leader del Ku Klux Klan della Virginia. Signori, poi qualcuno dice che non esiste il razzismo, figurati. Non esiste il razzismo. Però sarebbe bello intervistare uno del Ku Klux Klan. Quanto sarebbe bello intervistare un signore che rappresenta questo il avviene, Ku Klux sì, certo, Klan. Questo, io vorrei qui presente siano dei criminali, presente qui un signore del Ku Klux Klan. Se fosse lì presente, poi verrebbe anche portato fuori dallo studio radiofonico con dei ceppi. No, con dei ceppi. Perché? Non, in America non c'è grande libertà, i Ku Klux Klan possono parlare tranquillamente, non c'è dubbio. Possono parlare fino senza a quando appunti. Non commettono reati. Vabbè, fino questo, a quando non commettono reati. Che non sono io, mai reati d'opinione. Questa non sono questa mai reati d'opinione. A me questo mai. Aspetto della libertà non americana ti piace, mi piace so, sempre non, meno. Non ti piace, sì, lo so, non ti piace. Intanto io Armando sono un grande D'Avellino, filo americano. Ovviamente. Armando D'Avellino, vai. Buonasera, Cruciani, mi senti? Dimmi, vai. Volevo dire, ma il nano là, perché non ammette che è tutta una questione politica? se vogliono attaccare Trump con la scusa del nero, perché non lo ammette? Nessuno si è ginocchiato. Intanto, scusi, la prima questione, intanto perché nano? Sulla nessuno base di quali è parametri? Un po' bassino, poi l'ho vista, no, sulla, quale... l'ho vista pure l'anno scorso a Rapallo che leccava il culo a De Luca, questa cosa non mi piace. Ma dal vivo vabbè, però, Armando, non ho capito che cosa hai da dire. Normale, che cosa voglio dire, diciamo. Soltanto una cosa, che secondo me è tutta una questione, sì, politica contro Trump. Questa è la realtà. Contro, sì, è vero, lei ha ragione, sì, sì. Sì, è vero, è vero. Ma cosa stai facendo? È possibilissimo. Sì, è possibilissimo. Che stai facendo? Perché l'anno scorso, quando hanno ammazzato quella ragazzina in quella baracca, perché nessuno si è inginocchiato? Sì, sì, ma cosa c'entra? Sono fatti diversi. No, che c'entra, vuol dire? C'entra, il Parlamento. Ci sono state delle manifestazioni, sciocco. Dove? Scusami, sciocco che non sei altro. Pieno di manifestazioni. Pieno di manifestazioni. In Parlamento politici dove? Che sono andati, qualcuno? Di tutto è successo, dove? Giustamente. Dove? Come dove? Nessuno si è inginocchiato in Parlamento, dai, insomma, guardi che la questione del ginocchio è venuta fuori come si è diventato un simbolo virale nel mondo. Ma chi se ne frega? È divenuto un simbolo virale nel mondo, non perché qualcuno lo ha costruito, ma per quel ginocchio è diventato il simbolo del soffocamento di una persona. Quindi non è che prima non c'era l'inginocchiamento, c'entra? Perché la povera ragazza non è stata uccisa per un ginocchio, è stata massacrata da un violento stupratore e criminale. Ciao. Quindi il ginocchio non c'entra nulla. Allora è con noi Mario Adinolfi, che insomma picchia duro su questa questione anche della Boldrini che si è inginocchiata, caro Mario. Che ne pensi? Ciao. Ciao, beh, non lo so perché stiamo camminando su questa nuvola di cavolate continue. Di sceneggiate, di... C'è una sceneggiata, secondo te una sceneggiata quella... Ma in tutto il mondo però ci sono manifestazioni, no, caro Mario, in tutto il mondo, tutto il mondo. La logica per cui si fa in America la capisco benissimo, io sono appunto uno che frequenta l'America mesi all'anno, in America sento che accada, anche se secondo me è totalmente sbagliato il modo, ma insomma... Sì, in ma poi Italia, non si parla mai degli incidenti, di quello che succede in solamente. Italia, comunque, vabbè. In Italia, beh, no, non è mai accaduto che un poliziotto abbia fatto male a una persona di colore uccidendola. Ma che c'entra di colore? Scusa, dai, qui non è questione di colore o non di colore, una persona detenuta nelle mani dello Stato. Ma se che io c'entra? Devo importare in Italia una tragedia che avviene in un altro paese, diciamo, nella scala di priorità ce ne sono 100 altre da importare. Oggi, quella della sera, faceva un bellissimo articolo, noi ci eravamo occupati un po' di giorni fa su Zora, la cameriera bambina che in Pakistan è stata uccisa per aver liberato due pappagallini. Sì, allora, se devo importare una tragedia che avviene fuori dai miei confini perché è una tragedia significativa, io sceglierei storie del genere. Però scusate, ma nessuno importa tragedie. Ma nessuno importa tragedie, però, scusami. No, però, scusami. Ma nessuno importa tragedie. Mario, le cose accadono. Sono razziste, è molto chiaro. Mario, scusami un attimo, tu hai detto addirittura che Black Lives Matter, lo slogan, insomma, eccetera, è una roba razzista. Beh certo, quello è un classico slogan razzista, evidentemente, perché invoca una... la traduzione letterale è che le vite dei neri contano e io ho sommessamente sottolineato che la vita conta. L'idea che si debba difendere la vita in quanto vita dei neri ha un retrocesso razzista. Ma è così, in questo momento in America c'è sempre stato un problema rispetto ai neri. È semplicemente uno slogan che fotografa il fatto che c'è un problema rispetto ai neri. Anche non diciamo cazzate, dai, su. E poi dobbiamo parlare dell'America. Io da giornalista mi vergogno di vedere colleghi licenziati perché hanno pubblicato nella pagina delle opinioni un'opinione dissonante da quella della massa, per esempio. Al New York Times è successo ieri. Io sinceramente do tutta la solidarietà al direttore della pagina delle opinioni che è stato rimosso su due piedi perché ha pubblicato l'opinione... Perché non rispetta la linea editoriale di quel giornale, caro Mario. Mario. Però, perdona, se questo non ti interroga rispetto al tema della libertà d'opinione, perché poi dopo è un tema che... Cioè o ti inginocchi, no? Dici quella frase oppure sei considerato un mezzo razzista del Ku Klux Klan, diciamo, cioè questa è la realtà. Un padre di famiglia del Philadelphia Inquirer che ha scritto per 20 anni sul Philadelphia Inquirer è stato licenziato in tronco dopo 20 anni di lavoro perché ha scritto che va rispettata anche la vita degli edifici storici che sono stati abbattuti dai contestatori. Guarda che la cosa è più semplice, Guarda che la cosa... ragazzi, siete liberali a corrente alternata, però. Dire, scusami, su quel giornale c'è una linea editoriale molto precisa. Ma lascia perdere. Sarebbe come scrivere su Libero un elogio degli immigrati. Ma non è possibile. Non rispetta la linea editoriale di quel giornale. Come? Ma perché siete americani a corrente alternata? Ma cosa c'entra? Perché? Dai, Davide, non c'entra. È un autorevole giornale. Ma ha il diritto di pubblicare le opinioni che vuole. No, lui ha fatto. Ma quello è stato cacciato. Non è il diritto di pubblicare o no? Dai, su. Se non fai parte, se non ti inchini, se non ti inchini di fronte alla morte di quello, se non dici Black Lives Matter, se non quel dici, giornale ha una linea editoriale precisa, che è una linea progressista, capito? Passi come un razzista. È una linea editoriale progressista quella del giornale. Sei un razzista. Ecco, questa cosa. A parte che hanno pubblicato un'opinione che nulla ha a che vedere con il ginocchio. Ma lascia perdere il giornale, stiamo parlando di altro. Se non ti inginocchi, sei razzista, passi come un razzista. È francamente insopportabile. Tra l'altro in Italia stiamo siete molto per luoghi comuni, se fate dei luoghi comuni allucinanti, perché non è così, è un luogo comune sulla omotransfobia, in cui se io non sono d'accordo col matrimonio omosessuale, la omogenitorialità, rischio 6 anni di carcere. Ti sembra una cosa logica questa? E guarda, se dentro quel filone di pensiero, se non ti inginocchi sei razzista. Se non sei a favore dell'utero, ma come, ma sei? Ma Cruciani ha appena detto che negli Stati Uniti il Ku Klux Klan, giustamente no, secondo me, ma può dire quello che vuole, mettetevi d'accordo allora. No, ma scusate, ma che dite? Se avete appena detto, avete appena sostenuto che il Ku Klux Klan negli Stati Uniti può dire quello che vuole. L'avete appena detto, sì, puoi incitare all'odio, eccetera. E adesso vi indignate perché un giornale progressista dice a un signore tutto qua. Ma no, l'esempio suo, ho capito. Fate quello che volete. Alla pensiero unico viene rimosso dal suo posto di lavoro. Da quel giornale, perché quel giornale ha un'altra linea editoriale. Ciao, è molto Mario, semplice. Grazie. Ciao Mario, grazie. Ciao. Vincenzo da Bari, vai Vincenzo, dimmi Vincenzo. Dimmi. Buonasera Cruciani, vai, buonasera Parenzo. Dimmi Vincenzo, dimmi. Ciao. Volevo informarvi, sono un maresciallo dell'aeronautica in pensione. Pure. Sì dimmi. Allora, per quanto riguarda il generale Pappalardo, se io ascolto la vostra trasmissione. Allora dimmi. Da molti anni. Adesso perché penso che non c'è più, ma un colonnello. Quando prima di andare in pensione, il giorno prima veniva promosso generale, rivestiva il grado da generale in tutte e quattro le forze armate. Esercito, Marina, Vincenzo, che vuoi dire? Quello è stato promosso. C'è una legge che regola la promozione. Sì, ma è fatta apposta. L'hanno tolta sta legge. L'hanno fatta tolta. Però l'hanno tolta perché serviva andare in pensione con una pensione superiore, no? Dai, mi sembra. La legge si chiama legge Angelini. Vabbè, ma chi se ne frega? E allora chi se ne frega? Dunque? No, perciò. E che ci volevi di sta cazzata? Anche lei ne ha usufruito, evidentemente. Anche lei ne ha usufruito. Luca da Pescara, ci ha rotto il cazzo. Luca da Pescara, vai. Luca da Pescara. Dimmi, Crucio. Dimmi. Quel compagno di Paranzo non lo saluto. Allora, volevo dire innanzitutto che pago un pagliaccio e un sacchetto a perdere, o meglio Bespatalino. Ma chi? Pago. Non mi toccare Pago, perché è un grande combattente, non è un sacchetto a perdere, uno che lavora qui in Italia, poi dice cazzate, lavora secondo me. Tanto. È un lavoratore italiano che sta qui, originario del Senegal, di dove cazzo italiano, è? È un lavoratore italiano originario del Senegal che sta qui, paga le tasse, dice perché secondo me tanto, una marea di cazzate, tanto. È uno che e dunque lavora probabilmente più di te, lavora molto, probabilmente lavora più di te. Ma sicuro. Non credo, fermo non lì, credo. Mi hai rotto i coglioni, fermo anche tu, mi hai rotto i coglioni, fermo là. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid. Una piotta e 10 così, terza marcia, non ci sono problemi. E ogni giorno ve ne inventate una e un'altra, e prima il plexiglass, e poi il distanziamento di 4 metri, e poi il distanziamento di 2 metri, e poi la cosa, e poi le mascherine, e poi la visiera. Ma andate a fanculo, cominciate a lavorare voi, che prendete lo stipendio grazie a noi, andate a lavorare, merde, non fate un cazzo, pigliate lo stipendio, vi fate le seghe, dalla mattina alla sera, siete un branco di parassiti. Io non chiudo un cazzo a Luna. Io vi cago in testa, pezzi di merda. E vi ci piscio in cima. Avete capito? Brutti pezzi di merda. Sono dei pa... Voi siete pazzi. In uno stato in cui gli spacciatori girano di notte e spacciano la cocaina fino alle 5 della mattina, i poliziotti vanno a chiudere locali a Luna. Ma voi siete dei figli di puttana. Voi siete dei figli di puttana. Deve finire. Ci sarà un partito della rivoluzione che vi caccia tutti a calci in culo, perché sarà il partito del popolo che si è stufato dei vostri merdosi soprusi. Questi sono soprusi di merda compiuti da un branco di azzeccagarbugli morti di fame che vivono grazie alla politica. Il professor Zangrillo continua a dirmi tachipirigna. Pancrazio da Messina, signor Pancrazio da Messina. Mamma mia. Ciao Messina. Il signor Pancrazio da Messina, che potremmo dire potrebbe anche essere il rappresentante vero del Ku Klux Klan italiano, diciamo la verità. Cioè, se c'è uno che più si avvicina al modello Ku Klux Klan, questo è Pancrazio da Messina, che è praticamente, ragazzi, ricordiamolo, che è veramente un prototipo molto interessante. Pancrazio da Messina, che qualche volta si presenta sotto altro nome, non capisco perché. Lucio da Messina, perché non si so vergogna quale... anche di se stesso. Qual è il tuo vero nome? Scusami, Lucio, qual è il tuo vero nome? Il mio vero nome è Lucio. Il tuo vero nome? Perché ogni tanto ti presenti come Pancrazio? Non ho capito. Pancrazio è il nome di battaglia che usavo nella legione. Nella legione, dunque, praticamente, legione, signore, no, ma questo è vero, è accertato. Cioè, il signor Pancrazio, che via WhatsApp sicuramente poi mi manderà anche i suoi documenti della legione Tranger, è un ex legionario, autore anche di numerosi uccisioni quando era militare. Crimini, perché era della legione straniera, dunque aveva una divisa, era autorizzato, ad ammazzare, evidentemente, no? Non sappiamo cosa ha fatto. Quanti anni hai oggi, scusami, Pancrazio, oggi, che età hai? 64 anni, sei in pensione, pagato dalla legione. Sai cos'è? Che purtroppo sembra, in guerra muoiono tante persone per bene. Purtroppo non sono morti molti. Come voi. In che senso? Beh, addio, adesso questo. Comunisti. Ah, comunisti, ecco bene. Scusami, Pancrazio, non ho capito di cosa vorresti parlare? Perché potresti essere il prototipo adatto, il capo del Ku Klux Klan italiano, diciamo, no? Beh, in questi giorni ho assistito di tutto. Le sardine che si inginocchiano, le comuniste radical chic che si inginocchiano. Le sardine. Mi mancavano. Che cosa ti mancavano? Le manifestazioni degli zingari che cercano soldi. Sì, questi a Firenze è successo, sì. Ecco, il capo del Ku Klux Klan italiano che cosa farebbe con le manifestazioni dei signori zingari? Evidentemente questi, con lockdown, sì, sulla metropolitana, treni, pullman, sì, non c'erano passeggeri, sì, non potevano borseggiare nessuno. E dunque sono rimasti senza quattrini, per questo tu dici senza che quattrini, che sfilano. Quindi giustamente manifestano. Sì. Su quella manifestazione io semplicemente elicotteri d'attacco Cobra. Elicotteri dall'alto attacco Cobra, diciamo, attacco Cobra. Mm? Elicotteri attacco Cobra, sì. Bombe incendiate a Napalm. Ma no, vabbè, per dieci signore che sfilano per 50 metri di città, usare i Cobra, come dice questo sedicente, sì, mi pare una cosa incredibile. Io invece la cosa che mi chiedo è come mai, appunto, purtroppo in guerra muoiono tante brave persone. C'è da dire, come mai in particolare alcune persone da Messina continuano ad essere attaccate alla vita in modo così forte e invece non hanno, come dire, perso la vita in guerra? Perché sarebbe meglio liberarsi. No, voglio dire, avendo scelto di fare un lavoro rischioso, perché indubbiamente quello è un lavoro rischioso, c'è da dire che la vita è davvero ingiusta. La vita è davvero ingiusta alle volte. No, ma dico che la vita è davvero ingiusta, perché lascia in vita, appunto, determinate persone e fa viceversa, purtroppo, morire altre. Non ti sembra, scusami, Pancrazio, un tantinello esagerato, inviare degli elicotteri Cobra per sterminare con i Napalm quei signori che in fondo manifestavano. Adesso a me i Rom non mi stanno 20 donne, poi c'erano anche altre, cioè, non ti sembra un tantinello esagerato, caro Pancrazio, alias Lucio, alias legionario straniero? Beh, diamo anche il cognome a questo punto, visto che è di Messina ed è un legionario, dici, una legione straniera. Secondo te, diamo un piccolo anche reato, il numero anche di, commesso diamo un piccolo anche, reato. No, ma lui, se avesse coraggio, dovrebbe dare il suo cognome e anche il numero di telefono, così magari è raggiungibile da altri. No, Parenzo. Non credo. Sì, non Parenzo. Abbiamo parenti strozzi in famiglia. Non ti preoccupare. Non ciao, ma tu non ti sei inginocchiato? Non le abbiamo. Scusami un attimo, Pancra, ma si può raggiungere una cifra? Quante persone hai ammazzato durante il tuo periodo della legione straniera? Quante persone? Non mi fa sempre la solita domanda. Ho capito, ma non lo so. Ma allora, d'accordo, è impossibile. Raccontami un ammazzamento che hai fatto, quello più ma crudo. Ma hai mai rischiato la vita davvero? Una bella pallottola che magari ti ha sfiorato per grazia. Mi è mai capitato? Non ti preoccupare. Ah! Beh, allora sai, questo mi rende la giornata voglio sapere una cosa. Il modo dove più ti hanno colpito? No, sentiamolo. Ma che ne so, dove ti hanno sfiorato? Schiena, no, che braccio, chissà dove l'hanno colpito, perché sei diventato così scemo. Cioè, no, in testa non credo. Dove, testa. No, non lo so, dove ti hanno colpito? Sei stato al sedere, ti hanno colpito. Ti hanno fatto un altro buco del culo, mi visto quanto sei scemo. Allo stomaco. Alla spalla l'hanno ferito. Scusami, ma il modo più cruento. Alla stomaco poi? Aspetta, il modo più cruento, il modo più cruento in cui hai ammazzato una persona, qual è stato? Col tomahawk. Come col tomahawk? Che vuol dire col tomahawk? Ma figurati. Ma questo qui secondo me è un ballista. Tomahawk, no, lo so. Gli americani avevano in dotazione durante la guerra del Vietnam un tomahawk fabbricato dalla Steel, che è una fabbrica di armi. Il tomahawk sarebbe l'ascia da guerra degli indiani. Ma perché tu come legionario avevi un tomahawk in mano? Scusami. Me l'ha regalato un sergente americano. E allora? Come hai ammazzato una persona? Uno scontro diretto a Tomahawk, quello mi ha aggredito con un coltello. Ma dov'eri? Dov'eri? Ero, diciamo, vicino al confine con la Cambogia. Vicino al confine con la Cambogia. Ciao, Pancrazio. Sì, secondo me questo è un giovane pensionato, secondo me. Ti assicuro che è tutto vero. Salvino da Frosinone. No, secondo me questo qui è un ragazzo in pensione con 10 anni di contributi. Salvino da Frosinone. Non ha mai pagato dalla Legione Etrangea. Cioè, anche un falso invalido, peraltro, sai? Il classico falso invalido. Salvino, che non ha mai fatto un cazzo. È andato in pensione a 15 anni con 15 anni di contributi. Salvi, e adesso sta qui a dire alla radio che ha fatto l'eroe di guerra. Dimmi, Salvino. Pronto, Giuseppe, ciao a tutti. Volevo intervenire per Paco, ma onestamente, ragazzi, cioè Paco alla Zanzara sta tipo come Pacciani all'asilo, cioè interviene cose con la solita, tipo ormai il solito copione, Giuseppe pezzo di merda fascista. Vabbè, allora che vuoi dire, Sabino? Non ho capito. Cioè, niente, che onestamente tipo a sentire tipo Paco sta diventando tipo praticamente una monotonia bestiale la Zanzara. E vabbè, ho capito, quando c'è Paco spegni e non rompi il cazzo. Cioè, infatti ne approfitto per chiamare a qualcuno quando ci sta Paco, perché ha rotti i coglioni. Chiamare a qualcuno, se mai è chiamare qualcuno, non chiamare ma a se qualcuno, vuole dire le a chiedo qualcuno scusa, lascia di dire ma a qualcuno, ho capito, ma chiamare qualcuno, non chiamare a qualcuno, non chiamare a qualcuno, non chiamare così, ma mandatelo a fanculo, ma meglio chiamare qualcuno, non a qualcuno, ma Parenzo, ma tu Parenzo, ma lui ha in mente il moto a luogo, però parlo italiano, io parlo italiano, però moto a luogo. Non laureato, però il parlare italiano parlare italian parla italian perde punteggi a farvi intervenire a voi tipo parla italian italian Mauro è donato tutta la vita, ciao ragazzi, ciao, il livello è quello. Salvino da Frosinone, signor Salvino da Frosinone. Ma secondo me sono tutti falsi questi personaggi americani. Non è possibile che l'Italia sia così proprio. Ma è popolata da questi stronzi l'Italia, no? Ma è agghiacciante. Dante d'Ancona, credo, da Ancora, ma non ho scritto, ma penso che sia Ancona. Non credo che esista una città che si chiama Ancora. Ancona. Buonasera, sì, non sento un cazzo, anche se è da Ancora o d'Ancona, uguale, come se fosse ancorato. Ancora, mi senti? Amico mio, collegati meglio, se no non sentiamo una sega, dai. No, Francesco da Monza, rotti i coglioni. Francesco da Monza, vai, avanti tutti. Pronto? Dimmi, Francesco. Ciao, dimmi. Luciani. Dimmi. Senti, una cortesia prima di tutto. Di a quel somaro rosso che è lì vicino di lasciarmi parlare. Somaro rosso. Non credo che stia parlando di me. Mi sento in dovere immediatamente di intervenire se uno mi interpella in questo modo. Perché no, è un'autorizzazione a intervenire. Se uno mi titilla così, allora sono costretto immediatamente a intervenire. Ecco, dimmi le tue cazzate. Immediatamente. Ascolta, immediatamente. Hai tanto criticato le manifestazioni del centrodestra definendole incoscienti da persone. Perché non hai criticato gli altri assembramenti che ci sono stati? Perché non hai criticato quali altri? Ha voglia a manifestazioni. A favore quella di dei nazisti quelle, delle curve, dici? Quelle delle curve, dei nazisti delle curve? Come no? Di quel delinquente che è stato ucciso male, ma era un delinquente. Ma che c'entra? Aveva 7 condanne per spaccio di cocaina e una per e quindi doveva morire? Stupro e, ma ho capito, ma dove le ha lette queste cose? Capito, ma mi pare anche che sei contento, che quasi contento che sia stato ucciso, Francesco. Mi sembra favore, di capire. Non diciamo cazzate, è scritto tutti i giornali, ragazzi. Sì, ma ho capito. Quindi scusami, quindi fammi capire, un pluripregiudicato che finisce nelle mani dello Stato deve morire? Ecco. No. Coglione sei tu. No, Francesco, andiamo fino in fondo. No, ho detto fammi capire, imbecille. Un pluripregiudicato, un pregiudicato, una persona sottoposta a indagine che finisce nelle mani della polizia deve morire, quindi. No, ma io sto dicendo, però sei quasi contento allora. Tu dici però bisogna dirla tu, però bisogna dirla tutta, tu dici. No, non bisogna nascondere che quando il passato vedi, di Floyd, spiego, però amico mio, non c'entra provo niente. Provo a spiegarti una cosa. Anche, che coglione, guarda, cioè, che un idiota. Guarda che anche allora poi ti chiamo. Grazie. Mi faccio dare il numero da là, così poi ti chiamo. L'imbecille che ha appena chiamato facendo una figura di merda davanti a 2 milioni di ascoltatori. Questo imbecille che ha telefonato, questo idiota, Francesco, questo poveretto Monza, che ha chiamato Francesco l'idiota da Monza, che ha telefonato facendo una figura di merda di fronte a 2 milioni di ascoltatori, non ha capito purtroppo una cosa: che se un crimine viene commesso da un pezzo dello Stato, da un apparato dello Stato, in un paese democratico questo pezzo dello Stato si indaga. Vabbè, allora, capito? Allora. Quindi fa ancora più indignazione, perché dal criminale Francesco, uno si aspetta capito, il crimine, no. Hai capito il da un poliziotto uno non è parenziano, è la logica. Di parlare, io ho detto che io critico sicuramente l'atto criminale del poliziotto. Allora, fine. Quello che fermati non mi piace, basta, è tutto quello che è stato basta. Fatto intorno. Hai capito? Ecco. E perché? Bravo, ma bravo. Non è stato fatto costruito da qualcuno. Ciao, evidentemente Francesco, in America ciao, c'è una parte forte dell'opinione pubblica che ritiene ciao, molto Francesco, grave ciao. Quello che è accaduto. Metal will live on. Punk rock tried to kill the metal, but they failed as they were smite to the ground. New Wave tried to kill the metal, but they failed as they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. Allora, è con noi Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, eccoci qui, buonasera. Allora, Donzelli, caro Parenzo, ha definito una sceneggiata, quella della Boldrini e di altri deputati della sinistra oggi in Parlamento, sostanzialmente perché nessuno si è inginocchiato, Donzelli, per altre cose, mi sembra questo sia il succo del discorso, no? Nessuno si è inginocchiato per casi italiani, altri morti, per esempio, dico io, anche per poliziotti italiani deceduti, per poliziotti italiani uccisi in casi gravi, no Donzelli? Sì, ma poi soprattutto perché in Parlamento non ci si inginocchia, in Parlamento non siamo a fare le scene di teatro, ma siamo a risolvere problemi, soprattutto chi è in maggioranza invece di inginocchiarsi dovrebbe fare calma, fai parlare. Ha detto che in Parlamento non si fanno sceneggiate, ma in Parlamento c'erano dei suoi ex colleghi di Alleanza Nazionale che portarono la mortadella per Prodi. Vabbè, ma di che cazzo stai parlando? Stati ricandidati. Infatti, non ma che ne sai? Ma il cappio, la Lega mostrò il cappio, esatto, tirò fuori un cappio in Parlamento. Lui parla per se stesso. Inginocchiarsi è un segno di solidarietà verso una persona morta, un afroamericano, una battaglia che fammi deve riguardare sentire, tutti. Fammi sentire. Inginocchiarsi è un segno di sottomissione che il Parlamento, che rappresenta la Repubblica Italiana, non si può permettere. Ma sottomissione a chi? Che è il simbolo che... Ma a chiunque. Sottomissione a cosa? Spiegami, scusa. Il Parlamento sta in piedi e si fanno le leggi. No, scusa. Ma tu sai perché... Uno quando si Ma tu sai perché il simbolo... Sai perché la gente di tutto il mondo si sta inginocchiando o no? Lo sai o no? Sì. Allora, se vuoi perché quel simbolo è diventato virale? Ti sto facendo una domanda. Ma le sto facendo una domanda. No, Giovanni, aspetta un attimo. Allora, la cosa è questa. Allora, la cosa è questa. Tu dici in Parlamento non ci si inginocchia. E nessuno, però, hai aggiunto anche nessuno si è inginocchiato. E per nessuno finora, io ho iniziato dicendo, nessuno si è inginocchiato. Ovviamente per i poliziotti uccisi, ricordo Pasquale Apicella, 36 anni a Napoli il 27 aprile, non c'è più, ha lasciato una moglie. Neanche tu l'hai fatto. Neanche tu l'hai perché fatto. Per me il Parlamento non ci perché si non inginocchia. Io ho cercato di fare le leggi perché non il Parlamento non ci si inginocchia. Io ho presentato delle leggi per rendere più forte la polizia e dare più possibilità e più strumenti alle forze dell'ordine abbandonate troppe volte dallo Stato. Vabbè, perché questo è il mio dovere, non fare le sceneggiate in Parlamento. Questo dovrebbe fare la Boldrini. Al giovane Donzelli, il giovane deputato. Fammi sentire. Se secondo loro il ministro degli interni non è adeguato nel difendere la sicurezza in Italia, cambiano il ministro degli interni, visto che loro fanno delle mozioni o delle leggi o degli atti per cambiare la vita agli italiani. Ricordo che in queste settimane si sono ammazzati italiani per la crisi dopo il coronavirus e per l'inadeguatezza del governo nel rispondere adesso, a queste emergenze. Si siano ammazzati per l'inadeguatezza, non lo so, però tu dici nessuno si è inginocchiato. Nessuno si è preoccupato, ma il problema non è stato che non si sono inginocchiati, perché hanno fatto bene. In Parlamento non ci si inginocchia, in Parlamento si risolvono i problemi. Il problema bene, quindi la prossima volta che vedremo una gazzarra organizzata dal centrodestra lo dirai la stessa cosa, immagino, no? Io sono contro le gazzarre e non ci partecipo. Io credo che in Parlamento benissimo debba stare bene. Una cosa è la discussione, però anche forte. Dopodiché posso chiedere a Donzelli una cosa, all'onorevole Donzelli, gli posso chiedere una cosa, al giovane onorevole Donzelli, gli posso chiedere una cosa. Beh, 44 anni, è l'età mia, giovane. E mica ho detto che sei uno stronzo. Giovani, non sono giovani, però 44 anni non è una 44 anni è un giovane deputato. Vabbè, un deputato. Vabbè, allora, è un vecchio. Che ti devo dire? A Giovanni Donzelli, gli posso chiedere una cosa? Che vuoi chiedere? Sai che cosa rappresenta quell'inginocchiarsi? Non è una sottomissione. Sai che cosa rappresenta quel simbolo che è diventato virale nel mondo? Ma chi lo se ne sai frega che no? È virale? Significa semplicemente... Cos'è? No, l'ho chiesto all'onorevole Donzelli, non al portavoce dell'onorevole Donzelli. Portavoce e di Fratelli d'Italia Giuseppe Cruciani. Portavoce un cazzo. L'ho chiesto portavoce all'onorevole un cazzo che ti porto Donzelli, via tutto e ti querelo. Non al ti suo porto portavoce via tutto, anche di Fratelli d'Italia. Anche l'ascensorino del cazzo di casa tua a Padova. Non è ascensorino, ma è più grande. Ti porto via l'ascensore interno di casa tua a Padova. Posso chiedere all'onorevole Donzelli che perché quello è diventato un simbolo che poi in tutto il mondo si è ripetuto? Perché non è sottomissione a nessuno. I poliziotti americani, per scusarsi, sono stati i primi a fare questo gesto. I ma è un poliziotti che riguarda, è un puoi problema, ripetere scusami. Per piacere i poliziotti sì, i poliziotti ma è una roba americana. Se mi fai le domande poi mi fai anche rispondere. Vai. Non è i che poliziotti, posso pensare per che se in America hanno un problema di ordine pubblico tra polizia e alcuni criminali, ma perché scusami. Di questo si tratta, in Italia mi devo inginocchiare in Parlamento. In Italia ma mi devo proprio tu lo dici che il tuo partito ha una grande storia, ma proprio tu lo dici che vieni da un partito, forse sei troppo giovane e non lo ricordi, ma il tuo partito che ha le radici in Alleanza Nazionale e prima ancora del famoso Movimento Sociale Italiano del fu Giorgio Almirante, non ti ricordi. Ricordi, o forse non lo sai, che il tuo movimento era ad esempio a favore dell'indipendenza dell'Irlanda del Nord. Ma cosa c'entra? Allora, le questioni internazionali, no, per dire a questo giovane signore, questo giovane signore dovrebbe sapere che il suo partito ha una lunga tradizione di occuparsi anche di cose che avvengono scusami, fuori dall'Italia. La Boldrini ha detto, la Boldrini ha detto che ci sono razzismo e abusi di potere anche da noi. Questo ha detto la signora Boldrini oggi in ginocchio. Altro tema verissimo. Razzismo e abusi di potere. Adesso, paragonare quello che succede in America a quello che succede in Italia, francamente, dai, ce ne corre, dai, su, ha detto una cazzata, dai. Ogni partito si deve occupare di questioni internazionali, ma se ne occupa per esempio con le trattative, con i ragionamenti, con i protocolli. A te non ti piace l'inginocchiamento? Perché la sinistra che fa tante scene su Regeni non si è mai inginocchiata per Regeni e anzi ora stanno facendo i trattati con nuovi con l'Egitto economici e dimenticano Regeni. Regeni non gli interessa giusto, più perché su questo non era ragione, di colore. Su questo ha problema, ragione. Perché non era di colore. No, allora, su questo ha ragione. Cerchiamo un po' su Regeni cioè, ragione. Secondo te si sono inginocchiati solamente perché è di colore? Cioè, hanno una no, specie... il problema è perché va di moda. Il problema è perché ora va di moda questo. Allora questa è una sinistra che sposa i diritti umani quando è di moda, quando è comodo nei loro salotti, affrontare il tema, fare la scenetta, farti io mi auguro che anche lei si occupi di diritti umani, io mi auguro che anche lei faccia battaglia per i diritti umani, magari non saranno al primo posto, giustamente. Scusa Donzelli, tu che sei toscano, hai visto quella manifestazione oggi di alcuni signori rom a Firenze che chiedono soldi? Alcuni si sono anche incazzati, no? Dice, come è possibile che ci siano dei rom che chiedono del denaro in quanto rom? Esattamente questo, per me se possono protestare tutti a prescindere dall'etnia. Certo vorrei capire perché i rom devono avere soldi in quanto rom, o perché rom, o perché no, di quell'etnia. Secondo me l'etnia non deve influire sui contributi economici e sugli aiuti, né in positivo né in negativo. I rom, se hanno un lavoro e possono fare richiesta per i 600 euro se mai li avranno, se non hanno un lavoro e il loro da qualcuno forse da derubare sugli autobus, non gli posso dare il contributo per corrispondere a questo, cioè, perché secondo te essendo gli autobus meno trafficati non hanno più qualcuno da derubare sugli autobus. A Firenze mancano i turisti. Io non ho capito qual è il motivo della protesta dei rom, per il motivo per cui sono i rom in quanto rom dovrebbero Parenzo, avere l'hai sentita questa? A Firenze non ci sono più turisti, forse è per questo che è una battuta che va bene neanche per il bagaglino, però va bene, un deputato della Repubblica. Ma è serio, dico, lo hai messo in farsa. Bravo. Sei un bravo deputato che ha fatto una battuta. Benissimo. Bravo deputato. Puoi scrivere i testi. Per il bagaglino. Bravo. Non ci sono i turisti, ci sono i rom. Bella battuta. Faccio un discorso serio. I rom devono avere. Sì, ma lei non fa la zanzara, però, scusi. Lei fa il deputato, non fa la zanzara. Faccio il deputato, ti dico che secondo me i rom non devono avere soldi in quanto rom, ma se come gli altri partecipano a quelle che sono i click day, le richieste, eccetera, eccetera. Ma sì, certo, esistono le singole persone, eccetera, non c'è dubbio. Ti spiace che le istituzioni fiorentine abbiano dato molto più ascolto ai rom che protestavano piuttosto che alle categorie economiche protestavano la settimana prima. Scusami Donzello, voglio capire una cosa. Tu Casa Pound la sgombereresti o no, i signori di Casa Pound? Tu che sei un uomo d'ordine, uno dice la legalità. I signori di Casa Pound che sono lì a Roma a occupare un palazzo da diverso tempo, come tante altre occupazioni, per carità, li manderesti via oppure no? Ma credo che ci siano altre priorità, dopodiché forse dovrebbero anche loro pagare un affitto e comportarsi in modo adeguato. Altre priorità a Roma, ci sono palazzi occupati da criminali, che nessuno se ne occupa. La Raggi si concentra solo sui palazzi occupati dalla destra. Se si fa una legalità e si libera tutte le occupazioni abusive a Roma, sono d'accordissimo. Si deve partire solo da Casa Pound e fare solo Casa Pound, obiettivamente mi viene un dubbio. Ciao. La zanzara. Conosci tutti i presidenti come Putin. È vero. Noi, Alessandro I, al secolo Alessandro Meruzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala, antico orientale. Ho fatto sentire la zanzara a mia nipote, ha 17 anni, il suo commento è... Mi piace molto, però mi sembra strano che su Radio 24 facciano una cosa del genere, trasmettono... Appunto. Perché? È perché dicono molte parolacce, cioè è molto forte comunque come trasmissione. Mi piace, mi diverte molto. Che classe fai? È quarta superiore. Che meraviglia. Sembra strano che su Radio 24 ci sia questa trasmissione. Allora, era il signor Paolo Ruffini, credo con nipote, ottimo, o Ruffini. Sbaglio, con nipote al seguito. Con la nipote. Messaggio per Ruffini, attento 17 perché anni. Sai che Cruciani è pericoloso, anche con le nipoti, le cose, la giovane nipote di Paolo Ruffini. Sei pazzito, 17 anni. Tu sei sai pazzo. Che in alcuni ambienti, adesso lo svelo, sei chiamato il profeta, un giorno diremo perché, uno dei prossimi. Io ti giuro, prima della fine della stagione rivelo tutto. No, guarda, questo tanto, io non ho niente da nascondere. L'ascensore, sì, è vero, c'è un ascensore, vaffanculo, è vero. C'ho un vinino a due piani, a casa, i miei, sì, hanno lavorato, sì, tanti anni, hanno lavorato, pagato i contributi, due persone che sono state e hanno il vinino a due piani, sì, vaffanculo. Ma tu? Vogliamo parlare di te a questo punto? Ma allora, io da qui alla fine dell'anno prometto che parlerò e rivelerò tutto. Cioè, è vero, c'è l'ascensore che arriva diretto in casa, è vero. In una zona residenziale della città di Padova. Non c'è nulla da andare a fare in culo. Dopodiché tu vieni chiamato il profeta. Ma e diremo perché. Mai? E diremo perché prima della fine della stagione, il 31 di luglio, non so quando finiremo, il 31 di luglio, 24, 25, no, finiamo il 31. E non so se ricominciamo, diciamola tutta. Non so se ricominceremo, non so se ricominceremo. E quindi a quel punto, a maggior ragione, sarò autorizzato a dire tutto, a dire qualunque cosa. Secondo cosa. Riascoltando Menuzzi, sì, che sì, vi prego di mandare, ho notato una cosa, rimandatemelo, poi vi dico perché. Rimandatemelo un secondo. Senti. Noi. Alessandro I. Esatto. Sì. Alessandro I. Al secolo, okay. Alessandro Menuzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana, sì, autocefala. Antico Rio. Qui si ferma? Sì. Ok, allora vedete, lui parte spedito, noi, Alessandro I, sì, primate della Chiesa Ortodossa autocefala, sì, gli viene da ridere pure a lui, tant'è che si ferma e poi deve rifarlo, perché è talmente una cazzata. Senti un attimo, poi si deve fermare, poi hanno attaccato l'audio, secondo. Senti che roba, senti, noi. Alessandro I, al secolo, Alessandro Menuzzi, primate della Chiesa Ortodossa Italiana autocefala. Antico Oriente. E si ferma. Antico orientale, si ferma perché è talmente una stronzata. Quando dice una stronzata talmente eclatante, che è lungo, no? Perché vedi che lui aveva preso la rincorsa. Noi, Alessandro I, primate della Chiesa Ortodossa autocefala, si ferma. Cioè, sa di dire una puttanata talmente grossa che si ferma. Adesso... E poi va avanti, senti, perché parte spedito. Vedi come parte spedito, ascoltalo. Perché non è. Senti, allora, adesso già mi stanno rompendo i coglioni. Pistola in faccia, Castilleco rapinato a Milano. Brutta disavventura per il giocatore spagnolo del Milan. Due malviventi gli hanno puntato un'arma, intimandogli di consegnare loro l'orologio che aveva al polso. Il racconto su Instagram. Milano è tutto a posto. Questo è successo al giocatore Castilleco, 25enne attaccante del Milan. Altri mi dicono bisogna vedere da quale regione vengono i rapinatori. Altro punto interrogativo. Io non ho detto che le rapine ai giocatori avvengono solo a Napoli. A Napoli ne sono successe, come dire, in serie. La Leotta, per un periodo la in Leotta, serie. In serie. La Leotta, ma la Leotta è ricca, Leotta, certo, è una persona Leotta, benestante. È chiaro che vanno a rubare dentro gli appartamenti delle persone benestanti. Che cazzo vuol dire? Dai, su. Ma io leggo qua furto in casa di Letta Leotta a Milano. Sì. Milano. Allora? Milano. Capito, cruschiazzo? Allora? Rubata la cassaforte con gioielli e contanti. Ma non mi stupisce. Per oltre 150.000 euro. Dunque? È successo a Milano. Sì, certo. Milano. E allora? Mo che cazzo di musichetta metti? Oppure, oh mia bella madunina! Ma questo è un porca cretino totale. Porca miseria, bastardo che sei! Ma sei un criminale, sei! Luca da Roma. Sono Luca da Roma, un addetto del settore del gioco. Sì, addetto del settore del gioco. Ero uno delle 5.000 persone oggi in Piazza del Popolo a protestare, a contestare contro questo governo, precisamente contro i 5 Stelle, che in maniera grottesca, assurda, stanno tenendo ancora chiuso un settore che dà 58.000 posti di lavoro. Quindi 58.000 famiglie mangiano e vivono grazie a quel lavoro. Cioè, tu mi stai dicendo, scusami, allora, perché una cosa nota, però ripetiamola. Cioè, in Italia è aperto praticamente tutto, persino tutto, diciamo, i massaggiatori, eccetera. Sono aperti, esatto, i massaggi aperti sono e aperti. Invece le sale gioco sono chiuse. No, sì, sono chiuse e non solo, nei progetti di 5 Pazzesco. Stelle, ma le dichiarano pubblicamente e dicono, arrivano i soldi dall'Europa, ma che ce ne facciamo noi di 7 miliardi che questo settore genera? Chiudiamolo, lo riqualifichiamo, così per magia. Perché per magia si riqualifica. Sì, non so se vogliono riqualificare, cioè vogliono eliminare il gioco, le sale giochi in Italia. Certo, 5... perché secondo questa mentalità da 5 Stelle di Paperopoli, no? Se tu vieti il gioco, la gente smette di giocare, non va in no, Croazia, ma c'è di più. In Slovenia, in Austria, tenere il gioco pubblico, ma ha ragione, tenere il gioco pubblico legale com'è e tenerlo chiuso vuol dire fare un favore alle mafie. Cioè, questo è l'altro grande tema. Allora, quindi no, i 5 no, Stelle che vogliono combattere la criminalità, in verità, in questo caso rischiano di alimentare le mafie, perché il gioco pubblico, legale, chiuso, fa un favore alle mafie. Fine. Posso dire un favore alle mafie, ma fa un favore alla Svizzera. Io ricordo che a Milano, quando fanno gli orari sul gioco, a 20 minuti c'è la Svizzera piena di casinò. I milanesi prendono la macchina, bagno in Svizzera. Sì, giovane, no, ma diciamola, certo, diciamola tutta, certo, caro Luca. Allora, i 5 Stelle oltre sono da sempre per questioni elettorali, perché poi non gliene frega un cazzo, per questioni elettorali, perché è facile prendere consenso dicendo: ah, il gioco d'azzardo, la gente che ci rimette i soldi. Ma questo è legale, no? Le cose compulsive. No, ma gioco d'azzardo legale, sto dicendo. No, i ludopatici, la ludopatia su cui ci sarebbe discutere, eccetera. Adesso, però, che cosa c'entra? Una cosa è o è legale o è illegale. Se hanno riaperto tutti, esatto, con le distanze, con tutte le accortezze del caso, della minchia che ci dicono di fare, non si capisce perché un signore davanti a una macchinetta che gioca o a giocare al bingo non ci possa stare. Se aprono i ristoranti, possono aprire pure le sale gioco, diciamo la verità, cioè, ragazzi. Ma questo è, cosa più è una questione ideologica. Ma la cosa più grottesca, questi signori si nascondono dietro la foglia ludopatia. Ma scusate, se gli interessa la salute nazionale italiana, agli italiani possono spiegare perché durante una pandemia polmonare, sì, hanno detto: andate avanti a comprare le sigarette. Okay? Sì, no, vabbè, infatti questo è un altro discorso, non c'è dubbio. Però appunto, dietro la questione del gioco che non riapre, ci sono i soliti interessi politici, soprattutto dei 5 Stelle, che vogliono altro. Oltre al fatto che il gioco legale vuol dire circa, adesso la cifra esatta non la so, ma saranno circa 750 milioni al mese di mancate entrate per lo Stato. Vabbè. Quindi Luca, sappiamo avanti che tutta, spero che le sale gioco, come sai, io sono un grande fautore delle sale gioco, di tutti i tipi di gioco, legale, ovviamente. Io non ho mai giocato, per cui avanti quindi tutta, foto, speriamo che potrete. Il vostro conforto lo porto a 58.000 famiglie, grazie mille. Speriamo che possiate riaprire presto. Ciao, ciao. Grazie, ciao, ciao. Ciao. Elia da Roma, che mi sembra di ricordare sia il nostro amico Elia da Roma, signor Elia da Roma, camionista fascista, mi sembra, signor Elia, quello che nel suo giardino sventola la bandiera di Salò, se non ricordo male, caro Elia, no? Mm. O sbaglio? Pronto, sì, Giuseppe, confermo tutto, sono io, sì. Elia, camionista, onorevolmente fascista e fiero. Sì. Vorrei un attimino fare due chiacchiere con il romano, con il pariolino, perché l'altro giorno sta facendo dei lavori giù in giardino. Io non abito in giardino. E allora? E sentivo in sfuggita Parenzo, la radio. Sì. E Parenzo che ha detto, sei ubriaco, Elia, che c'hai? Sì. Parla, articola, che c'hai? Una persona è in trasmissione. E lui ha detto, ci manca solo che chiama qualche camionista cioè ha insultato i camionisti, diciamo. No, io sì. Quelli come lei, vorrei precisare, io ho insultato quelli come lei. Cosa hai contro i camionisti? No, non con i camionisti, vedi, tu, grazie per aver chiamato, io non ce l'ho, grazie per aver chiamato, non ce l'ho con i camionisti, io ce l'ho con questo coglione, esatto, io temevo esattamente la chiamata di questo qui, che si proclama fascista, c'ha la bandiera di Salò e mi meraviglio che qualcuno non gli abbia tagliato le gomme del camion. Cioè, io con questo tipo di personaggi ce l'ho, non con i camionisti, cioè, perché la categoria dici che Elia da Roma imbratta e offende la categoria dei camionisti. Sì, io infatti fossi lui non direi camionisti, direi semplicemente Elia da Roma. Offende la categoria umana, non sono io. No, dei giornalisti, ma quello non è un problema. Allora, la cosa che io mi chiedo è: tu hai la bandiera di Salò in casa? Sì, me ne vanto, che certo che ce l'ho. Sì. Ce l'ha. Hai un camion? Sì, c'ha un camion. Certo. Sì. Ti proclami fascista? Certo, onorevolmente fascista. Come mai, viste queste tre cose, nessuno ti ha mai tagliato le gomme del camion? Ma perché uno deve è fascista, alla bandiera di Salò, è fascista. Alla bandiera di Salò, dico, può capitare. No, dico, può capire, può succedere. Ma no? Perché potrebbe tagliare le guare ruote del camion? No, ho detto è diverso. Non ho detto che gliele deve tagliare, ho detto che può accadere. Cioè, tu non saresti scontento che non sia ancora accaduto. Tu non saresti scontento se uno che ha la bandiera di Salò si proclama fascista. Non lo so cosa sarei io. Non lo so che cosa sarei io. Però tu dici, sarebbe quasi una giustizia democratica. Io ho detto mi sono chiesto ad alta voce un'altra cosa. Io, David Primo, primate della chiesa autocefala della Zanzara, mi sono chiesto un'altra cosa: come mai questo signore, che ha questi tre requisiti che se voi possiamo ripetere, è un camionista, e questo va benissimo, è dichiaratamente fascista ha la bandiera di Salò che sventola fuori dalla finestra del camion, come mai le ruote del suo camion sono rimaste indenni per tutti questi anni? Io faccio questa domanda Perché la gente non sono merda come te. Ciao, ciao Elia, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, uno dei protagonisti della manifestazione Rom di Firenze si chiama Marcello Zuinisi, signor Marcello Zuinisi. Ma è italiano in realtà, lui non è un Rom. Sì, quindi. Beh, sì, però è Rom, è un Sinti, come no? Che cazzo dici? Un Sinti? Ma bene, ma è un italiano, sì, certo, sì, un Rom, quando dici Rom, Rom, dici, Rom, è un italiano. Ma sì, ho capito, ma grazie italiano. Al cazzo, ma lo sappiamo, no? No. Perché se no, no, sappiamo, il pubblico che ascolta non lo sa, già un Rom. Sentiamo. No? Italiano. Pronto? Zuinisi? Con chi parlo? Sono Cruciani, come andiamo? Cruciani, come andiamo? Stiamo chiedendo i buoni economici alimentari, Cruciani. Ma state a fare le manifestazioni, ma che è sta? Assolutamente, manifestazione permanente, ne abbiamo fatte 7. Ma che cosa? Per i soldi? In per i quattrini? Però. Buoni economici alimentari. Perché i signori Rom chiedono soldi? Non capisco io. Perché i signori Rom sono cittadini, al pari tuo, mio. Ma certo, assolutamente. Allora perché allora manifestano insieme, in quanto Rom? In quanto è Rom? È uscito un decreto legge. Vabbè. Per cui, visto che noi siamo 40.000 persone, che stiamo muovendo, perché io c'ho i bambini denutriti che ho visto anche a Castel Romano. Beh, noi abbiamo visto che prima non ci hanno dato niente. Ma voi avete diritto o no a queste robe? E allora avete diritto, sì. Piglierete i soldi, punto e basta. Ma no, che non stiamo... soldi, non sono soldi. Vabbè, sono ma quello voucher, che è bonus alimentari, questo che stiamo chiedendo. Ma ho capito, ma perché i Rom in quanto tali devono, le chiedono le singole persone, non i Rom in quanto tali. Sì, le singole persone chiedono. Ma siccome in Italia c'è il fascismo, il nazismo, il razzismo contro i Rom. Ma chi l'ha detto? Ma che sei pazzo? Il fascismo, il nazismo, ma qual, chi sarebbero il fascismo e il nazismo contro i Rom? Da 80 anni che c'è le leggi razziali mai sono cambiate. Okay? Ma che stai a dire? Ma che in correlazione con il razzismo no, cruciale. Cioè, ma chi sarebbe il capo? Ma chi sarebbe il fascismo? Chi sarebbe il capo di questo fascismo e nazismo contro i Rom? Zuini, ma chi? Cruciale. Sì, so io, mo so io. È Renzi che ora va a giudizio. Signor Renzi, ma non mi interessa Renzi Salvini, adesso, capo del fascismo, Matteo, Salvini. Questi signori qua. Perché manifestate? Per quali soldi in quanto Rom? Stiamo manifestando perché abbiamo diritto ad avere dei bonus economici. Ma hanno diritto le singole persone, non i Rom. Ma abbiamo non i Rom. Diritto, mica, guarda che c'è Santino Spinelli. Ancora. Che c'ha una villa a due piani. Lui non c'ha diritto ad avere i bonus economici. Ma allora che manifestate insieme in quanto Rom? Ma lui infatti non manifesta, lui c'ha la panza piena. Noi abbiamo la panza vuota perché noi siamo i poveri. Io rappresento la parte più povera della popolazione. Ma questo può essere pure. Ma tu personalmente, Marcello allora Zuinisi, hai diritto a prendere un buono. No, io non c'ho diritto. Non i Rom in quanto tali, perché altrimenti. Marcello Zuinisi non hai diritto ad avere il bonus economico alimentare, ma Bancuta. Su Carina, che ieri era in manifestazione, ne ha diritto. E va bene, perché... allora facesse, ma non è che non glielo danno perché è Rom. Le persone devono mangiare. La tua protesta è sacrosanta. Le persone ma mangi già il punto. Ma che perché anche tu stai? I Rom hanno diritto a mangiare. Ma ho capito, certo, perché mo i Rom certo. Hanno problemi. Allora, hanno problemi siccome, a mangiare i Rom adesso. Siccome, i Rom hanno problemi a mangiare. Io vedo sempre delle panze così. Delle panze così hanno problemi a mangiare. E dai, su. Fai la bella vita. Io ho i bambini denutriti. Ma che denutriti? Ma dai, ma smetti con me. Ma ho capito, ci sarà qualche vieni caso di solito vedo Rom, domani, Rom sempre ben me. Pasciuti, amico vai mio. Con lui. Vai con lui, scusa, vai con lui. Con lui. Ma posso anche andare, posso anche andare. Vai con lui, esci dagli studi. Vai con lui, perché chiacchieri? Vai con lui, vai a vedere. Adesso i Rom sono denutriti. Vai con lui. A Milano, i Rom sono denutriti adesso. Vieni a vedere i bambini. Ma c'è sarà qualche caso, li assistano i comuni. Ma i Rom di solito... Ma i Rom di solito non ma Mario Giordano è un razzista. Mario Giordano. Aspetta, Mario Giordano. Ma Mario Giordano è un razzista per te? È un razzista Mario Giordano? Mario Giordano. Mario Giordano è un abominio. Un abominio, perché un abominio? È un abominio, guarda, lo conosco personalmente, veramente, è un abominio, è uno che difende proprio l'avvocato dei nazisti. Ma no, l'avvocato dei nazisti è una cosa molto grave. Dei nazisti, e del debbio Del debbio a pari sua. Al pari sua del debito è l'avvocato dei nazisti alimentando odio e razzismo. Venite. Adesso ci stai dicendo andate, che portalo, i Rom hanno problemi di sopravvivenza. Ma dai, scusami, su, ma ci saranno alcuni. Ma abbiamo 25 anni in meno di un italiano. 25 ma dai, io vedo sempre i Rom ben pasciuti. Vedo un sacco di Rom ben pasciuti. Ma ci saranno dei, come tutte le comunità, ci saranno persone che sono in difficoltà e altri no. Tu non puoi dire che quello è l'avvocato dei nazisti. sì, sì, il signor Cosa. Dai, lo dico, mi quereli, del Debbio e questi canali qua non fanno altro che alimentare lo stereotipo. I rom vogliono integrare, i rom vogliono vivere così, i rom vogliono vivere colà. E coprono le malefatte dei politici. Ma che malefatte? Ma che coprono? Ma quale coprono? Racconta. Coprono, a questo ma che serve la TV, la propaganda televisiva di Goebbels. Ma tu li stai a cosa? Goebbels. Parte che Goebbels, non Goebbels. Ma non ho capito, ma tu stai paragonando questi signori qui a dei fascisti, a dei nazisti? Assolutamente sì. Ciao Marcello. Ciao. Non ci viene a Roma allora. Ma che cazzo venga a fare? Roma sei matto. Ciao. Ma per i bambini. Ma questo. I bambini ci saranno sicuramente, se ne occupi allora il comune. Ma i rom non sono in difficoltà. I rom non sono in difficoltà. Vedi con i tuoi occhi. Vabbè, ciao, e porta il ciao, pane ciao, e ciao, la farina ciao. E il lieve. La zanzara. Sì, io vedo molto negativo. Interviste top, avremo Giorgia Meloni e poi avremo Matteo Salvini, tutti e due in questo studio, prima e poi l'altro. E poi avremo un sacco di ospiti, avremo Vittorio Sgarbi, Vittorio Feltri. Questa narrazione della sinistra che non sta nelle periferie è un po' datata, lo dico a capezzone. Fatene una ragione. Vincete solo a centro e Paglioni. Vincete solo a centro e Paglioni. Fammi parlare. E voi che avete fatto, geniali, la sanatoria per dare subito un bel segnale. Allora io dico, qui ci sono dei piromani che si chiamano Giuseppe Conte, Teresa Bellanova, ma non piromani perché sono cattivi. Capezzone, gli immigrati li vorresti a piedi nudi in mezzo al fango. Paolo, sei scemo, baracche, completamente scemo. Ma no, Paolo, ma sei completamente andato. Paolo, sei completamente scemo. Non hai capito? Non hai capito? Non hai capito? Ti ho capito. Sei vorrei ricordare complice che degli scafisti e non tenerei neanche conto. Siete complici degli scafisti e non Libia. Giù Conte, giù per cento, giù ho detto giù Conte, buono, un lapsus freudiano, tremendo. Inviteranno gli scafisti agli dai, stati dai, generali. Dai, chiusa qua, che dobbiamo fare il processo alle mascherine. Voi le mettete le mascherine? Sull'autobus, sull'autobus, non altrove. Eccola là. Beh, caro Parenzo, è con noi la grande nemica del femminismo italiano. La donna che fece vedere il culo in televisione da Chiambretti, la donna che si spogliò, praticamente tolse le mutande qui in questo studio radiofonico, una donna che è entrata da poco nel mondo anche del porno. Con OnlyFans, sì, ne abbiamo già parlato. Un percorso culturale che ha rilasciato una. Ma avete avuto mai una relazione voi? In passato mi pare di sì, no? No, non abbiamo mai avuto una relazione, ma no, ma assolutamente no. Ma è una mia storia, amica. Ma una delle tue cose. Ma sì, ma avete avuto una storia. Ma saranno cazzi miei con chi ho scopato in vita mia, no? No, ma saranno cazzi miei con chi ho scopato. Ho capito, non è che ti devo dire con chi ho scopato, non con la signora Cantini. Forse nella mia testa, forse nelle mie fantasie, forse nelle mie fantasie erotiche notturne, nei miei miti. Alessandra Cantini, eccoci qui, come andiamo? Ciao, tutto bene, benissimo. Allora, la signora Alessandra Cantini, in una recente intervista, recentissima intervista, mi fate parlare oppure dovete dire buonasera, sì, Parenzo, buonasera, signora. Cazzo, buonasera sta minchia. Che cazzo? Dai, su, qua i convenevoli sono praticamente eliminati, volete reintrodurli voi? No, mia madre a volte li vuole reintrodurre. Dice che sono una selvaggia, maleducata, perché non voglio girare con la museruola. Ma tua madre negli uffici e litigo con la questura, insomma. Ma perché non vuoi entrare negli uffici nemmeno tu con la mascherina? La museruola, cambiamo un altro nome al termine, come scudo fiscale, sezione fiscale, termini coniati da Berlusconi, diamo altri nomi a cose che non danno vantaggio, a cose brutte, antiestetiche. Cioè tu negli uffici entri senza mascherina, sì, negli uffici veramente proprio mi devono forzare a metterla e poi dico che ho il naso distrutto e che nessuno può obbligarmi a metterla nei perché nei luoghi chiusi lei lo fa per proteggere se stessa ma soprattutto ma gli altri. Ma io scelto, io mi sono creata il mio lavoro, no? Loro devono starci con la museruola perché vengono pagati, io non vengo pagata per mettere la museruola, quindi perché la devo se mettere? Lei va sull'autobus per rispetto verso gli altri e verso se stessa deve fine. Non c'è tanto se fa sulla fila. Non pretendo che non mi chiada la museruola. Beh, figuriamoci, quella prende l'autista, signora Cantini, figuriamoci se va sull'autobus. La signora Cantini, livornese equilibratissima, dice l'amico Ruffini. Dice l'amico Ruffini. Livornese allora, equilibratissima. Cantini, Ruffini è stato dice... dimenticato dal Livorno Gram oggi, perché l'ottimo tanto Livorno Gram diversi Ruffini. Personaggi non ci sono. E Paolo Ruffini. Non parlare male di Ruffini, un gigante. Dopodiché su equilibratissima, mi pare che lei sia stra-evidente che sia una mezza squilibrata. Ma, questo ma perché squilibrata? Perché faccio come fa Sallusti. Sallusti che non urla quasi mai. Ma non è squilibrata, ma assolutamente non è squilibrata. Mi pare evidente che la signora sia una poveretta, una squinternata. A volte ho trovato metodi legali per la mia lucidità. Senta, quindi, cara, lei è una simpatica squinternata. Se lo faccio allora, dire, però, grande, io voglio trovare in questa intervista. Mi chiamaste Troia. Ecco. Però è finito di essere chiamata tale. Oh, no, finalmente ci incontriamo su una cosa, perché, anzi ci incontriamo esatto, su tante cose. Allora se sessisti e problematici voi altri che pensate. Ha ragione, una donna una che viene chiamata cioè, Troia è un complimento. Meglio sì, che essere chiamata Michela Murgia, ecco. Beh, adesso questo. Ma come si permette? Ma che è matta? Però scusami. Vedi che questo conferma il giudizio di Ruffini. Lei lo dice in senso positivo la parola Troia, per cui non è un'offesa, certo, non è un'offesa. Ho aperto quella categoria di lavoratrici, di donne che danno un valore al proprio corpo. Ma se io, certo. Senta signora cara, se lei ancora di più, se metti tempo, il corpo di una donna. Scusi signora, io la vorrei abbracciare signorina, in questo momento. Signora, allora, signora, no, tenga presente, poi mi zittisco. Se lei, perché se lei vuole, togliersi le mutande in pubblico. Evviva, io dico solo evviva. Se le vuole togliere fatto, Radio 24, evviva. Poi, se lei vuole mostrare il culo in televisione, se lei vuole continuare a mostrare il culo in televisione, se lei vuole fare i porno, se lei vuole fare i porno, evviva. Con un ragazzo se lei si vuole anche far dotato, chiamare Troia, sì. Evviva, evviva. Però tutte queste cinque cose insieme mi fanno confermare il giudizio dell'ottimo amico Ruffini. Io non la critico, ma dico se nell'ordine, lei mostra il culo in televisione, si toglie le mutande in ogni dove, si fa chiamare Troia e fa i film porno, conferma ma in modo assolutamente è una persona palese. Libera. Io in quarantena mi annoiavo e ho voluto esprimere amore con un video con il ragazzino con ma che è normale? Scusami, è meglio che portare al spasso un cane che fa merda flagale in giro che le la sto a raccattare perché devo girare intorno al mio isolato. Beh, adesso ma questo è meglio se mi rinchiudo in una suite con il mio Toy Boy che sfamo, me ne occupo lo stesso, però a 24... insomma ha tanti attributi in più. Però scusa, 24 centimetri stavi dicendo. Scusami Alessandra, voglio capire una cosa. Adesso l'alternativa non è portare in giro un cane a fare la cacca oppure a fare un film porno, cioè non è che siano un'alternativa. Però ci voglio capire una cosa, se uno ti dice scusami Alessandra, se uno ti dice sei una troia, tu ti offendi? No, anzi no. Mi arrabbio perché dico sei un sessista, allora uso un ismo. Io detesto l'estremismo, però allora dico scusa, sei fuori luogo. Ma veramente sei una persona chiusa mentalmente, sei un sessista in questo senso, perché te la devi prendere con un'onesta categoria di lavoratrice? No, ma se ti dicono sei una troia, nel senso sei una che gli piace il cazzo, cioè non ti offendi una cosa di questo tipo, cioè non è una. No, ma poi non è fuori luogo, possono dirmi non mi offendo. Senti, allora io ho notato una frase in queste due interviste alla settimanale Panorama che un po' mi ha colpito. Anche. Un'intervista, sì, ha fatto un'intervista perché non può fare interviste, non l'ho capito. Non può fare ma interviste. Ma ha fatto un'intervista sul fatto che ha iniziato a fare porno e sulla sua idea della donna. Settimanale Panorama, quello diretto da Belpiede, Maurice e Beautiful Stone. No, dimmi in inglese che lo nobilita. Maurice e Beautiful Stone? Allora, cioè il giornale diretto fammi capire, perché questo è nuovo. Il giornale diretto da Maurice e Beautiful Stone ha fatto un'intervista, ha intervistato una signora Cattin, che nell'ordine, ripetiamo, mostra il culo in televisione, si toglie le mutande nelle radio in ogni dove e si fa chiamare Troia. Tutto questo è stato oggetto di un'intervista di un giornale diretto da Maurizio Belpietro. Io, vostro onore, non ho altre domande. Allora, no, ma perché... però scusi, mi voglio concentrare su un dettaglio, che è questo, caro Alessandro. Stasera in forma, perché stasera è in forma. Cioè, ma non dico come... No, stasera in forma. Allora, cosa non farebbe mai, chiede l'intervistatrice. Cosa non... Alessandra, cosa non farebbe mai? Sesso anale. Lascio questa pratica ai pervertiti, agli insoddisfatti, ai sadomasochisti. Preferisco dilungarmi ai su... Ai froci e trans. Allora, però non me l'hanno riportato. Non l'hanno riportato. Hai aggiunto ai froci e trans, perché anche loro hanno avuto un momento di... Gravissimo. Hanno avuto un momento di... giornalista che ha fatto l'intervista e che ha detto: direttore, abbiamo un'esclusiva. No, dice, aspetta un attimo, fermo. Abbiamo? Ma scusa, ma perché? Perché il sesso anale? Ma ride, perché ride anche lei, ti rendi conto o no? Scusami Alessandra, perché il sesso anale così lo lasci? Lo lasci pervertito. La cosa più goduriosa è l'essere me stessa proprio. Ma perché? Scusa, spiegami Alessandra, perché il sesso anale lo lasci ai pervertiti, agli insoddisfatti, ai froci, a quello che hai detto, scusami. Perché sono un'esteta, io amo il bello. Bello il sesso è meraviglioso, è tutta una fontana spruzzante. Sì. E lascio questa pratica che mette l'estremità nella cacca, appunto ai froci, ai trans, a chi non sa fare bene l'amore, ecco. Beh, su questo torneremo tra un attimo, perché è un tema di grandissimo interesse. Ferma lì, è un tema di grandissimo interesse, caro Parenzo. Perché qui abbiamo una persona che è libera, dice di essere libera, una delle persone più libere, che addirittura fa dei porno, è passata al porno con un ragazzo. Andate su OnlyFans, potete vedere i porno, come già sapete, da questa disgraziata emissione radiofonica della signora Cantini. E però il sesso anale no, lo lascia, dice ai froci. Fermi. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Questa notte, ti giuro su Dio, ho sognato la Cantini che mi squirtava in faccia. Siamo al top. Che voglia di cazzo, mamma mia. Luciani, bello lo squirting, bellissimo parlare di squirting, però usiamo un po' di scienza, portiamo un po' di cultura in questa trasmissione. Allora, 3 litri di squirting, cioè si tratta di un fluido che verosimilmente ha un peso specifico superiore a quello dell'acqua, perché essendo un fluido composto da acqua ed altre sostanze, verosimilmente è più pesante dell'acqua. Ora, un litro d'acqua pesa all'incirca 1 chilo, quindi tu mi stai dicendo che una donna che squirta 3 litri di squirting perde istantaneamente 3 chili di peso. Quando c'è gente che fa fatica a perderli in una settimana mangiando le insalatine. Ma dai! David, Natania, da casa Parenzo. Buonasera, Parenzo. Beh, amici miei, abbiamo qui Alessandra Cantini, che è una showgirl, diciamo così, performer, adesso anche... attrice porno, insomma, si sta dedicando anche al porno. Perfetto. Tra le altre cose, non solo, anche al porno. Ha girato insieme ad un ragazzo ben dotato, perché tra l'altro la signora Cantini mi ha inviato qualche piccolo spezzone private spezzone. Però tornando a Paolo Ruffini, che l'ha scoperta, diciamo, anni fa, me l'ha segnalata come una persona controcorrente, la signora Cantini. Lei ha mai avuto una relazione sessuale con il signor Ruffini, cara Cantini, oppure no? Oppure non c'è stato questo incontro sex, ma in tempi non sospetti, naturalmente, quando tutti e due eravate liberi, naturalmente, non voglio dire nulla. Cioè, c'è stato tra di voi... liberi, non liberi, Cruciani, cioè, sì, è vero, cioè, come tu neghi Qualsiasi cosa con me, io nego qualsiasi cosa uguale. Perché comunque è tutto. Io nego, negare sempre. Una performer. Allora, io non l'ho capito, però. Allora, questa frase non l'ho capita. Mai sesso anale, lascio questa pratica ai pervertiti, agli insoddisfatti, ai sadomasochisti. Preferisco dilungarmi sui preliminari. Ora, perché tutto questa... questo è contenuto dell'intervista al settimanale Panorama, è corretto? Sì, anche tra le altre cose. Sì, volevo capire perché. Questa l'hai spiegato prima, era un concetto molto semplice, vorrei che però spiegassi meglio perché questa opposizione quasi ideologica al sesso anale. Perché è antiestetico, semplicemente antiestetico, un solo aggettivo. Ma perché? Scusa, non ho capito. La propria estremità, l'estremità di un uomo, di un maschio che vuole possedere una donna nella cacca. Ma nella cacca non è detto, è scatologico, è scatologico. Se uno si pulisce bene, no, se uno si pulisce. No, bisognerebbe andare veramente in profondità, soprattutto per le dimensioni di cui io parlo. Ma lascia perdere le dimensioni, ma voglio dire, non è detto che si vada a incontrare, no? Il famoso Mexican, come si dice, no? Non è detto che si vada a incontrare quella roba. Tu dici... parla di squirting, delle piacere dello squirting, tutto questo non è contemplato nel, cioè, secondo te, qua. Secondo te l'anno è fatto non dà piacere, cioè, la stavolo ai froci e trans che non hanno niente di bello da fare e li piacciono anche. Io onestamente amo il testo così com'è. Non ami questa pratica qua perché dici che, no. No, che l'ano è fatto per espellere, non per essere, no, per, esatto, per, la donna per essere... deve accogliere. Cioè, in questo caso è sempre un fine che va oltre. In questo caso accoglie, amica mia, è come se non accoglie, diciamo anche nell'ano si accoglie, non accoglie per il fine a cui dovrebbe accogliere, non c'ha niente. Ho capito, però come voglio dire, ma due omosessuali che devono fare, due maschi? Loro fanno bene anche a pettarsi, ma non io. Io onestamente. No, non ti piace. Anche no. Anche no, ma perché ti fa dolore? L'hai provato qualche volta o no? Però fa calma, ma calma. Devi... vabbè, analmente qualcosa si prova sempre, ma anche il minimo non mi piace. Cioè una cosa... Anche ce l'hai provato un minimo, hai provato. Aspetta, dove sei che c'è un casino? Non voglio parlare di queste cose scatologiche, di cosa faccio sotto le lenzuola. Beh, se non parli, amica mia, fai film porno. Fai film porno, se non parli di cosa fai sotto le lenzuola. Signora cara, lei ammetterà che su questo io non sono mai privata, una che mostra il culo, che si toglie. No, fermi. Fermi tutti, fermi tutti che sono in cazzo, perché Cruciani io lo critico sempre, esatto, perché va troppo nello specifico. Esatto. Dopodiché, cara signora, una che mostra il culo, si toglie le mutande Radio 24 e adesso sì. Io fai di questo non parlo, di cosa vuole parlare? Porno. Della riforma della legge elettorale? Ma di che stiamo parlando? E non vuole dire se l'ha preso il culo. Io non do mai ragione a Cruciani, mai. Ma su questo, cara mia, visto che lei ha un CV, curriculum vitae, nel quale lei annovera le seguenti attività. La domanda è questa, per dire che non ti piace. L'hai preso nel culo almeno una volta? Ma no, o no? E l'hai preso o no? Sono poche cose che non ho provato. Ah, dunque l'hai preso anche nel culo. Allora, a proposito di cose che hai provato, sempre in questa intervista cose che non ho provato, non ammetto e non nego niente. Va bene. Come al solito. Sì, come al solito. Però c'è una cosa che hai detto apertamente di aver fatto, cioè di aver passato un periodo di dipendenza dalla cocaina, cioè ti sei proprio distrutta dalla cocaina. Vabbè, ragazzi, così tutto hai distrutto una provò. Parte del setto nasale, probabilmente no. Cioè, hai distrutto una parte del setto nasale? Piuttosto lesionato, sì. Infatti mi sono fatta fare la certificazione dall'otorino per la quarantena, per cui io potrei anche non mettere la mascherina. Cioè, non ho capito, ma con la cocaina una parte del setto nasale, tac, è andato via, così? No, non è andato via, però è parecchio lesionato. Infatti mi sono fatta fare questa certificazione. Ma quanto ti facevi, scusa, quanto pipavi? Abbastanza, cioè, dopo Ibiza effettivamente mi ha mandato un po' fuori di testa. No, ma dopo Ibiza cosa vuol dire? Quando? In che periodo? Noi non sappiamo. Era dopo luglio, poi l'estate a Monaco, insomma. Luglio di che anno? L'anno scorso, poi alcune delusioni, 2019, alcune delusioni a Venezia e tutto, sono tornata a Livorno e effettivamente mi sono messa in qualche giro sbagliato. Ma quanto pipavi? Quante botte al giorno? Non lo so, tutti i giorni, ma costantemente. Costantemente, cioè grammi su grammi, dici? E i suoi geni, la sua famiglia, che diceva? La sua mamma, che diceva? Fermarmi, però comunque era costante tutti i giorni, quindi... E che diceva sua mamma, scusi, di tutta questa sua vita un po' così? Cioè, se ne accorgevano perché avevo il naso distrutto, però... Ma come pagavi? Te la regalavano o pagavi? Spesso pagavo. Non mi mancano i fondi, infatti non ho mai preso roba cattiva, per questo che dico legalizzerei tutto, perché chi non può permetterselo o può permetterselo poco, quantomeno c'è pure la cocaina, legalizzeresti? Tu che vieni da, che hai passato, certo. E come hai fatto a uscire dopo un anno in cui ti ammazzavi di cocaina? Come hai fatto, sei andato in comunità, hai fatto che cazzo ne so, come no, hai fatto? Ho fatto che, siccome sono molto lucida e intelligente, modestamente, umilmente, sì. Mi sono resa conto che devo fare dei viaggi, partire tutto, e mi sono resa conto che viaggi, avevo paura, viaggi, quelli quasi senza avere perché mi ero fermata a dove avevo i miei. Ma non ho capito, sei riuscita a farne a meno completamente, cioè non ti fai più manco una botta? Sì, no. Niente. Cioè, non nego che se magari mi succede in serata, magari sì? È molto meglio fare questo che fumarsi le canne. A me l'erba non è mai adesso, piaciuta. Se non esageriamo, è adesso. Molto peggio. È meglio, no, è molto peggio l'erba della cocaina. I ragazzetti che si distruggono, si arrivano a 20 anni con mezzi neuroni. Ma ho capito, ma ragazzi, ma non è che possiamo fare il paragone. Dipende sempre la persone molto intelligenti, sì, invece. Dipende sempre quando ne usi, ovviamente, ma si chiama droga leggera per un motivo. Ma no? Io faccio l'esempio dei topi. Freud ha scritto Uber cocaina, l'esempio dei topi su cui è stata somministrata la droga. Lì elimina i neuroni, ma i neuroni quelli inutili. Se li elimina una persona intelligente, i neuroni morti. Perché ce ne sono poco, ma ne ha tante altre sinapsi. Ho capito, da collegare, non è che puoi allora dire, sta ma, bene, ma allora è, collega bene. Ma ho capito. Se elimina, sta prendendo un deficiente che ha già pochi neuroni, sai, e sono già mezzi morti, è chiaro che la cocaina non fa niente. Quindi dico, legalizziamo chi ci deve schiattare, subirci e rovinarsi, si rovina, chi è come me non ci si rovina. Beh, oddio, hai detto che ti stavi ammazzando di cocaina, che stavi... No, non ho detto che mi stavo ammazzando, ho detto che stavo abusando, che mi sono accorta che ero un po' di sopra. Sì, ma non puoi dire che fa bene in alcuni casi, cioè fa sempre male, dai, su ragazzi, non diciamo che... Sì, fa sempre male, cioè, veramente non te la somministrerei, però insomma... È una cosa che penso non sia così pesante come l'erba, per me è pesante. Vabbè, e con queste considerazioni, cara Alessandra, ti abbraccio. Queste a presto. Considerazioni, grazie. A presto, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Vuoi provare tantissimo di sesso anale, sì, ma hai tanta paura? Sì, sì. Guarda i prodigi della mia malinconia. Ma rimetti un attimo la corte, che ci sono andato sopra con la voce. Rimetti. Vuoi provare tantissimo, grazie, il sesso anale, ma hai tanta paura? Volgia di critici osannati, demoni rogli, assiomi, cementi. Intanto, è ragazzi, collaboratrice, un'altra collaboratrice del giornale di Belpietro. No, non è collaboratrice, è intervistata, è stata intervistata, no? Collaboratrice. No, la signora, la professoressa, la De Mari, abbiamo sentito l'audio della De Mari, che di sera incoglionito. Abbiamo sentito l'audio della De Mari e io ho chiosato. Sì. Ecco qui un'altra columnist del giornale diretto da Maurizio Belpietro. Allora ragazzi, il 1 luglio pare che riapra il welcome, riaprono i bordelli, ma, anche in Austria. Una marchetta dietro l'altra. Non si sa ancora se ci saranno gli italiani, se ci saranno gli italiani, perché il problema è che l'Austria è uno dei paesi, la Grecia ha deciso di ripartire, l'Austria ancora blocca le frontiere. Spero che per il 1 luglio il signor, come si chiama, Kurz, non so come si chiama, riaprirà le frontiere. Intanto il karma è incazzato, senti il karma. Buonasera Giuseppe. Ciao Carmone. Buonasera amico mio. Come la va? Non c'è come male. La va? Non c'è male, Carmone. Ma Giuseppe, io dimmi. Praticamente, allora, sono molto incazzato. Incazzato è dire poco. Ma perché sei incazzato, Carma? Ma adesso passiamo ad altro, praticamente. Tu mi spieghi una cosa, Giuseppe? Perché? Ma ogni minchia si è detto mai che le italiane siamo così discriminate? Ma ti pare normale l'Austria? Dico l'Austria. Che uno se la ricorda. Minchia, perché te la ricordi l'Austria? Dici, che cazzo c'ha un mare? No! Che minchia c'ave l'Austria? Che minchia c'ave monumenti? No! Che minchia storia ave l'Austria? Beh, insomma, l'Austria non è come l'Italia. Allora? Ma io dico, amici austriaci, ma come vi permettete di dire che forse non aprite i confini italici? I confini italici? Confini austriaci. Ma come minchia vi permettete? Allora, veniamo in Austria solamente per una cosa. Non è che veniamo in Austria a mare, per guardare Colosseo come sta a Roma o l'Uomo di Milano. Veniamo in Austria solamente per patata o sticcio. Sticcio! Capito? STI KKIU Sticcio in siciliano. K in siciliano non c'è da male. Ma è un ignorante è pazzesco. Come sticchio è STICCHIO ecco. Al singolare e sticchi forse al plurale, ma non si usa. pezzi di cesse che non siete altro. Come vi permettete? Vi portiamo i sorti. Questo è giusto. Vi portiamo i sorti. Hai ragione, hai ragione. Veniamo là, vi facciamo proprio signori. Signori! Cioè noi togliamo delle risorse al nostro paese, veniamo là a ficcare come disgraziati. Giusto. Vi lasciamo un sacco di sorti. Pure puttane! Là pagano i club, tutto quanto. E dite no, gli italiani forse, forse a luglio. Allora mi rivolgo a tutti i trombatori d'Italia, tutti i trombatori d'Italia. Trombatori d'Italia, adesso mi sento generale Pappalardo! Trombatori d'Italia, riuniamoci, facciamo un partito, un movimento di puttanieri contro sti merde parenti di Hitler. A noi ci devono fare passare, anzi ci devono fare la cittadinanza. Giusto. Italo-austriaca. Beh, perché noi amici miei austriaci, noi vi portiamo i sorti, cash, capito? Cash, i piccioli, vi portiamo i piccioli per fare cosa? Per venire a fare un po' di ficcati, pezzi di gessi. Voglio vedere stelline quando arriva a Tarvisio. Voglio vedere stelline da Comodo Europea. Ah. E passo e mi rilasso e già penso sticchio. Amico mio, seducenti, distruggerò gli endecasillabi del madrigale. Un genio assoluto. Riccardo da Chieti, vai. Riccardo, Mauro da Genova, dai Mauro, dimmi Mauro. Ciao Giuseppe, grandi. Dimmi, vai. Sei veramente un grande. Allora, una cosa importante. Quella persona che hai a fianco a te. Sì. Che normalmente fai il turista delle religioni e tutto quanto. Turista religioni. Non sa che il signore del Debbio, suo padre, è stato recluso a Buchenwald. Lo so perfettamente, quando quella persona l'ha accusato di nazismo. Ma come no? Secondo me non è un razzista per nulla del Debbio. È venuto anche a cena a casa mia, pensa un po'. E allora ti do anche questa notizia. È venuto qualche anno fa a cena a casa mia. Ma quella roba l'ha detto gravissime, sia su Mario Giordano che sul Del Debbio. Gravissime. Le ha paragonate dei nazisti. Non lo querelleranno perché questo. Non c'ha un euro quel signor. Gli dovrebbero nulla, togliere tutto. Né razzista né fascista tutti. In alcun modo. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza. Lo so, alle 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid.